Ma la variante seccata a Bari. Io sto ascoltando nel panacchino vicino e c'è una bella radio veramente. Sì, sì. Ah, una bella radio, veramente. Complimenti. Sì, devi fare a me complimenti. Anche la modifica tutto adesso. Se a me sono efficienti qui sì, non devo dare proprio così. Sì. Certo Zino. Sono campani. Vuol dire fiducia. Affaza. Oh, yeah. Sono di tracco ancora. Ti sei riposato con tracco? No, non avevo voglia, stamattina mi sono stato alle 8:30, subito mi sono 7:30, 8. Capito? Cavolo, c'è. Ehi, stamattina, c'è tutto ricco. Sono salito alla 1 e alle 2 a casa. Mi sono stato alle 1:10. Perché lì passa la 7 all'1:10, la 6 passa all'1:05. Allora ho preso la 7, salito con la 7. Mi dà un freddo su Manzano, ma freddo mi dà freddo a me. Un giorno fa caldo, un giorno fa freddo. E poi stava anche più freddo, capito? No. E oggi ce la stavo scendendo, mamma mia, mi ha freddo in moto. Uia! Un po' strano sto facendo, un po' fa caldo, la settimana fa caldo, la settimana fa freddo, prima sale di 10, poi scende di 10, poi sale di 10, poi scende di 10. Eh? Così, passare qua, lasciare qua, è vero, lei non si capisce più dove sta giù. Adesso fa la neve, e poi 4 giorni dopo ci avremo 28 gradi. Scritto come baracchino infatti. Ehi, caso io abito il microfono e l'altro quando mi spiegano lo stesso, è questo dell'Intergm 40 quello che c'ho io. Ma che va bene. E poi c'è un abito più. Capagama, MB40, Integ MB40. Va bene, è un buon apparecchio, te lo sto dicendo. C'è la Giuseppe Bettiatore uguale, cosa c'è più di quanto tu hai detto. Non mi ricordo, Marco, avevo fatto gli attacchi io, ci avevo tirato vento. Poi l'unica cosa che c'è di problema quando metteva in macchina d'estate nella 1, talmente scaldava, cambiava canale da solo. Ma scaldava più, sì, è una cosa impressionante. Il processore si andava, partiva da solo e cambiava canale. Abbiamo acceso, abbiamo lasciato acceso su 14, come fa andare sul ventilatorio? Allora, gli ho controllato e era il display che la buttetti. Allora, se la pubblico, questo è acceso, ma non sta scaldando. Sì, non hai capito, ce l'aveva nella 1 dentro al cassetto e scaldava un bel, capito, perché pigliava il sole e c'era cucina a 30 gradi dentro la macchina. Lui è acceso dentro un cassetto. Ah, figlio, non ripigliava la macchina, si è apparato. C'è un po' di cardia, ya. Lo sto dicendo. Gli apparecchi li conosco, ne ho saltato uno o due, il Mobicon 40, il 45, poi c'è l'ultimo modello che è uscito, e quello che c'è nel catalogo Inter che faccio io, che fa tutto dalla tastiera, prima lo scegli gli ultimi. In pratica sarebbe quello, mi sembra che c'è Luigi Vulcano. E c'è solo, c'è le bande laterali, fa 40 canali con le bande laterali. Bisogna usare la procedura con i pulsanti e tirare 200 canali. Poi quando fai lo stacco, devi spegnere e riaccendere e tirare di nuovo 40 canali. Capa, sì, ciao, va bene. Pratica, dopo i mobili come è uscito il musico, il 485 sono davvero. Ne sono uscito, anzi prima del multico 485 ne è uscito anche un altro, prima di quello. Figurati tu. Infatti il multico ancora è in vendita, MFM e SP. Poi c'è un sacco di tastini, dove c'è, già l'hai visto già. Ah sì, tastini piccolini, FM, AM, NB, vabbè, non vedi, E, D, W, vabbè, già l'hai capito, dai. E già l'hai capito, già l'hai capito. Andà bene, andà bene. Deve essere un apparato buono, dai. Non è di quelli scadenti, diciamo, dai. E già vanno bene, noi, che vanno male, già sono di quelle pareti. Beh, tutto sta appena al microfono, tu già bello come apparato, vai. Appena al microfono, ma ci possono anche fare un sacco di modifiche dentro. Direi che ci vuole un po' di fantasia, di poi aumentare l'amplificazione, per mettere la scheda ben lineare. Questo è il trattato canali, ci sta giusta, mi ha messo con il cata dove c'è il coso, vicino alla colombina, ci sta giusta. E così pompa 50-60 watt, ma è più fuga, scalderebbe come il coso, ci vuole un dissipatore, non c'è posto dietro. Però te lo vedi, ma siamo così già da bene, no? Ah, sta facendo bene, intanto. Ce n'è anche per i pulci. Ma vedete confusi come sono, i due. Tu sono piccato per di seguito, perché se mi danno quei soldi che mi devo dare, compro la macchina, me lo metto in macchina. Se me ne rompa l'uno, c'è un altro. Ciao, va bene, già, la buccia. Già rimetto la scarpa, rimetto, cioè il piccolo 50 li attacco in macchina e vedrai già poco, non devo stare a modulare il movimento io, no, frega sempre di modulare il movimento, dove c'è posto mi fermo e metto a parlare, non più che minnando. Sì, vabbè. Anche giusto come stai dicendo, perché non è che ti devi distrarre molto quando mi dire la pittura, no? A parte che non puoi mai comodare con il microfono di vettura, se trova lo titolo quello che funziona la patente per dire, ma io patente non avevo, quindi non la putti nulla. Avanti perché. Oh Antonio, scusa un attimino, guarda che questo microfono, come mi sto togliendo adesso questo un microfono. Stai uscendo a quando parli. No, aspetta, aspetta, è un microfono di musica, diciamo, per parlare. E l'ho mirato un po' per un pochino di turino, dico che c'è tutto con la spinaggette. Però probabilmente non va bene. No, vabbè, com'è la radio? Ma è comprensibile, a parte del mio. Vabbè, vuol dire, si può una specie di simile fischio, amico. La modulazione si capisce, però c'è una specie di fischio, come c'è una taglia, forse non c'è una tanta differenza o qualcosa del genere. Potrebbe essere un po' amplificatorino, cos'è il busso? Allora, ho utilizzato, c'è questo amplificatore, diciamo, un kit di quelli che si mettono, e ci ho messo il gentilone, poi ho fatto un'uscita ad attaccare al barattino, ma no, quindi solo, non parliamo di tutti i difetti di rondino e cose del genere, e quelli magari non hanno filtrato e cose del genere. Dimmi la voce, com'è la tonalità, troppo alta, bassa, squillante, troppo bassi, nasale, dimmi un po'. La tonalità è buona. Può anche andare, poi ti porti questo quando parli, Appresso, va bene, ora faccio una prova, perché devo suite, faccio un circuitino e l'ho messo per fare un momento. Sono utilizzato, sai con cosa sto facendo il TTT? Ho preso uno di, sai presente quei cittoponi che ti ha comunicato con le stanze, quelli che attaccano la spina di corrente, ho utilizzato uno di quelli come pulsante. Poi di diverso ci ho messo un circuitino e ne ho messo un oggetto, un pancia a pannello per usare il microfono di questi, diciamo quelli da voce, così normale. E poi nell'uscita ne ho attaccato il cavo a quattro puri per attaccare la cosa, il baracchino. Ho capito, ma già facevi prima attaccare quel microfono a un mixer. E è uscita il mixer direttamente all'attacco del baracchino. Cambiate, staccavi la capsula. E uscite le pizze e la caccia direttamente a finire del microfono, e poi diciamo le prendevi la portante. Oppure c'è il microfono al tavolo, fai la stessa cosa. E quindi così con il mix ti fai le tonalità come vuoi tu, cupa, grossa, amplificata, con l'eco, come sta facendo fare che gente. Sì, sì, no, vabbè, sono il mix, la posso fare quello che vuoi. No, soltanto adesso se lo faccio camminare questo, che non avevo provato solo per capirci, no. Vabbè, continuate un attimo, riprendo dopo, ciao, chi c'era che fa il tempo? Ehi, ciao, vabbè, salutoni, Ci sentiamo tra un po', dai. Ehi, cambia il microfono, però lo fai. Sta uscendo il tipo di FDC mio, quando l'ho attaccato, così mi sono... Bene, sì, vabbè, ci stiamo facendo una prova, siamo a bene, lui già lo mette a posto. Ah, quello sì, io lo so. Io ce l'ho ecco così, l'avevo attaccato così, ho spinotto l'uscita delle cuffie, l'avevo agganciato direttamente all'attacco del microfono, cazzo, mi cucina così. Solo che tende a far fischiare, ma pompava, e cosa male pompava. Ehi, già ubbido, già. Sono felicini, sono, dai. Lo so, già lo so. Cosa li dai? Cosa li dai, guarda? Adesso vedo che attacca il mix, lo sistema bene, c'è bene. Poi comprano di quei pedali che usano per gli organi e si fa la portante lì, così rimane tranquillamente, schiaccia il pedale, tac, e va il portante. Sì, si porta appresso quando perché non si adatta troppo, evidentemente si amplifica troppo. Come le FDC mio, è stato uguale, che c'è tutto non si adatta. Sì, ma guarda, tutto il tuo rapporto già è gatta. Grazie a Dagia, l'ho fatto fare 50 più quintino, non è problema per quello. Già Dagia, sono così bene il microfono. Non so, sono scali che le cose, di quegli accidenti, di cose di Natale. Scarica di fate di mattare. Ecco, questi ti credo. Sono sensibili, sono la prima, lo senti. Cioè se tengo tre di QRM, ma colgo giù laggiù, QRM così, con gli occhi. Cosa tu ne come lo sento con il QRM? Io ho prenotato qui, se tengo tre. Va bene, normale. Si può il barattino. Invece quando la gente si sente antenna, si sentono le persone senza antenna. Vai tu. Se poco un pezzo di filo uguale. Mira che mi faccio il tanto di alfa in questo barattino io. Devo mettere il pulsantino con il trimerino piccolino. E mi faccio il tanto di alfa. Lo metto in serie alfa al 4, così che metto il pulsante e passo dall'11 al 11 alfa. Quando copro il pezzo io li faccio sì, io due pulsantini e faccio i canali alfa. Sia sotto sia sotto lo faccio lo stesso lavoro. Di voglia di farmi il pasto al sugo, ho arrivato il pasto al burro per cambiare un po', e anche poi mi sono mangiato due piatti. Sì, faccio bene, io non la faccio, la faccio il pasto al burro e tonno, ma esce la cosa troppo buona, non ce l'ha provato la tonno. Sì, col tonno l'ho già provato, sì, è buono lo stesso che col tonno, la pasta. Io ho fatto esperimenti, addirittura il sugo ho fatto il sugo col tonno, il sugo con la Simmental, il sugo con la salsiccia. E ho fatto degli esperimenti col sugo. La pacchiappa. Ehi, a Santa Rosa devi un po', no, Giulia. A Santa Rosa sì, capito. Se vogliamo pianare un po' lo stomaco così, bisogna sempre fare un po' di tutto, no? Come uno chef, però qua. Capisci, stai arrangiando, vai. Se non voglio che mi arrangiano fare, non è che voglio che fa bene, oh. Se vanno tutti a lampare, faccio. Sì, è stata la carità, se c'è da fare un po', meglio, molto meglio di quello che compri. Ah, quello che è vero, eh. In effetti, è già così mi pure, già, la sopra, che è una cosina, già c'è una cosa buona. Sì, c'è della banana, c'è il riso, c'è le pennette, ci sono, gli spaghetti tiranno, voglio che tu tiranno latte, scaduto naturalmente, l'olio che è buono, quello di soia, il sugo, i calabresi, di rospì, però è buono lo stesso, e caffè, solo come aglio. Però sì, sale non ce l'hanno, ma non esiste per l'odore di sale. Chiama. Ehi, adesso è perfetto. Non sai che cos'è questo, le sottoterra? No, dimmi. Questo è un moto da sottoterra nella porta, questa è la faietta Hawaii del Busa degli anni 70, un baracchino che mi avevano dato insieme, avevo comprato delle cose, me l'hanno messo in mezzo questo baracchino, un paio di microfoni e altri paio di quei portatili, mi avevano dato insieme a Giussi, modulazione fine però buona, perfetta. Sono la faietta, un baracchino vicino, sto guardando cosa c'è, no? Come l'ho fatta, là, c'ha volume, squelch, mini-gain, refrigain, delta tune, e se vuoi la calibrazione e basta, poi altri c'hai i filtri, guardate, la potenza, cioè, come si chiama, il indicatore di SVR, cioè, e più c'ha il tono, c'è anche la raccolta. Dimmelo, non dimmelo, una cosa del genere, quello che ti diminuisce la tensione delle lampadine. Va benissimo, grazie, è bello quel baracchino, l'ho avuto, ne ho riparato un sacco di quegli apparecchi, quelli ci fanno dentro il dito con fuori, quegli apparecchi, se tu il fitto di modulazione fai l'attacco diretto dal coso, pensate che dal fitto di modulazione escono due campi che sono verdi e vanno uno allo stampato, uno al PN direttamente. Li stacchi quelle file, aggiungi assieme e ti dà 15 volte se allarghi le mollettine. Una la stringi e l'altra la allarghi. Ma no, no, come ce l'avevo conservato, non l'avevo neanche mai provato questo baracchino, cioè ha detto male che non funzionava nemmeno. Invece mi sta dicendo che funziona. Perché è vecchio come sta, però è nuovo nuovo, se lo vedi, è tutto nero, poi è un bel mano. È molto più grande della 48, è lucido. Ah, perfetto, la radio, è bellissima. Comprandoselo. Scrivo così nel coso, mi metto un cartoncino fuori, anzi scrivo, se vuoi avere la ragazza, comprati un baracchino, ce l'avrai subito. A Roma quando è? Laura, lasciate perdere quelle porcherie dei cosi. E adesso mi ha fatto sparire i baracchini nei negozi grandi, anche tipo città mercato, cosa del genere, hanno messo questo cazzo di PMR che non si vola niente. E un bel gente sta comprando qui, fanno 3 km e poi il ce li butta la mondezza. Ciao Pompo! E chi è te? Stefano, ti ricordi di Stefano? Stefano già mi ricordo, quanto è Stefano però? Metta lui a me. Metta lui, si chiama Stefano. Metta un bestiore! Aspetta, abbassa appena, si è uscito da quando ho strappato con quel cable, abbassa appena l'applicazione. Ho capito, Stefano, metta due. Messa due! Domani, ciao Stefano, ma non sei bestiore, non fa il culo. Adesso ho capito chi sei. Messa due, ti facevi l'imitazione, lo facevi incazzare. Bastardone. Ciao Stefano, saluto di comunque, non ho capito che non sia a casa tua, sia a casa di Franco. Salutami anche a Franco e fagli gli auguri. Sento me. Dimmi. E chi tu come te? Prova. 1, 2, 3, prova radio. Va bene anche questo, perfetto. Le due che era meglio, questo macchino o l'altro? Ma sono uguali, per me la frontale è precisa. Ah, questa lo sai che cos'è? No, che cos'è? Questo non è un 48, fatto in conto io pensavo che fosse molto meglio di quello che hai ascoltato prima, invece mi stai dicendo che sono molto simili. Sì, sono molto simili. Vabbè, buona salute, se no pensavo fosse una cagata quella Faiette, invece mi ha detto che va bene, sono contento. Venditelo subito la 48, 250 euro, così lo modificano e torna a casa per 500. Allora, questo è la 48, se lo vedi è nuovo fiammante, quello che ce l'aveva 2 settimane in macchina, la Mercedes, perché erano rappresentanti, l'avevano convinto, mettitelo per così ti avvisano con la polizia, i camioni, insomma uno che ci camminava in macchina. L'ha tenuto 2 settimane, è detto la stampa, ma l'ha dato a me, è detto un regalo, nuovo, fiammante. Ce l'ho 2 anni questo baracchino, si può dire che lo uso solo quando sono a Platamona, un paio di volte lo accendo. È perfetto, Roberto, è una bomba. Conservano quel baracchino che è la bomba. C'ha la radio per il piciliare. Ma questo qui o quello di prima? No, la 48 sto parlando. Questa è la 48 stiamo parlando. No, ma la 48 non lo vendo, cosa devo vendere? Quanto devo vendere poi? Cioè, lo voglio tenere per. Non si sa mai per quello per niente. Sa, partivo. Anche ce ne ho baracchini qua. Me li tengo per l'evenienza. A volte che si balla uno c'ho l'altro. E dopo sentiamo, ti faccio sentire il mubico, vediamo come va quello lì. Aspettate, continuate, dopo ti faccio sentire il mubico. Catalogo, per la radio, di luce. sono privito, va bene. Aspetta, ti piace questa, te, ma che ho quella di prima? Quella di prima, questa è buona, la verità si dica, però quella di prima mi piaceva molto più come modulazione. Vabbè, dopo vi faccio sentire un'altra cosa, dai, continuate pure il play. Va bene, riprendi un po'. Ma cosa, sto provando, Luigi. E chi era l'amico entrato un po'? Poco fa che è andato da Stefano, è da parecchio che non lo sentivo per niente. Ma chi è Stefano di Ussi? Ah, di Sassari, di Sassari. Ah, mi sembra Stefano un nome quel po' lontano, diciamo, dai. No, no, no, no, di Sassari, di Sassari. Paroccio, va bene, contro salutari, contro gli do tanti saluti anche da parte mia, vai, per la primiera, perché non ho avuto mai l'opportunità di sentirlo, ma è da poco. A parte che ho entrato, ho fatto un salutino, deve essere anche da di qualche amico su, tanto, è stato 5 minuti. Ah, gava, gava, per quello che c'era, strano, ripetiamo. Ho cambiato apparato, stavo sulla pallola. Va. 1, 2, 3. Ciao, tu ne hai l'amico. Ehi, ho cambiato a cento e volano anche a te. Sei cambiati. Ah, sono Lara. Sto facendo bene, 9:25 a pompa. Poco fa, come si è entrato, sono in banchia manetta di quell'apparecchio. E stavi strappando un bel. Evidentemente l'avevi appena acceso. Comunque sto facendo bene adesso, va bene così. Strappa, andò bene. E tu Luci, trazione fissa, un po' in macchina. Trazione fissa, ormai sono accarbonati, mi sono riassestato, questa volta in casa mia sono, mia proprio. Aggiustimo piano, dal costo ormai sono andato via già un paio di mesi, una cosa del genere, un mese e mezzo. Poi sono rilassando l'altro per l'esattezza. E chi vivi zì. Dimmi. Beh, se scendi in M, te lo dico subito. Perché quello va in automatico nel FM, quella baracchina, appena lo accendi. La M. Mi sì, sì. Adesso sì. Quell'apparecchio già lo sai che quando lo accendi va subito in FM. Aspetta un attimino. Guarda adesso proprio, sempre lo stesso sono. Sì, sempre uguale. C'è appena sotto di te dunque. Eia, Pantimano è sotto di me, al primo piano. Ti posso fare la cacca la sua adesso. Scusa, non me la conto da FM. Beh, questo come va invece? Questo va bene, va bene, quello è mobico. Siccome quando accendi va subito in FM, è mobico. Già quel difetto che quando scalda un po' in macchina, abbiamo il canale da socia. L'unico che cominciava chiuso per mettere a lui l'aveva messo io sempre, mi sono malacchino. E avevo messo lo GPP con la cosa lenta, chissà se ne poteva ancora, boh. Ma sto uscendo? Sì, che te c'è. Vabbè, il potenza ma tu il volume è rovinato, ti sento a colpi. Ci riesci poi con i baracchini, quando non li usi fai col tempo come fanno quel difetto, eh. Cos'hai, le MP40, Rubi? Aspettate un attimino che qua non c'è, vi sento proprio bassi bassi perché ci deve essere un po' di polvere nel volume, perché non riesco a capire cosa state dicendo. Ma non si usa, cominciano a fare a tali numeri, adesso qualcosa io del chiuso, con la giareta era andata dal sesso, tu sta scarico, uscivo, fischi, per carità. Perché vogliono cioè cantare un telo, capito? Che la posa sotto si infiltrerà dappertutto, C'è il difetto delle cose, tutta la testa c'è per mettere le gambe di voi, quando stai ad un bel che non lo usi, quando mi fili dentro, è poco di base male. Mette la ragazzella, usi. Oh, adesso mi sentite? Ehi. conosco e ci dicevo, vabbè, dovevo mutarci un po' di cervici perché mi sentivo proprio basso in basso. E adesso stavo ascoltando, com'è la radio questa? Più bassa dell'altra? No, va bene, amplificata. Questo è un M93 di microfono con il Mobicom, il malacchino Mobicom. Ascolta, ma allora c'è l'MB40 del Mobicom? È l'MB40, questo è il Mobicom MB40, è abbastanza nuovo, dai, non è nuovissimo, però diciamo non è graffiato, non è rovinato, vuole un po' spolverato perché c'è stato un po' di polvere nei contatti, vuole puliti, dai. Per il resto ho visto che sta funzionando, dai. Ciao Giovello. Ma l'hai detto tu il coso? E tu con che microfono lo usi? Io devo arrivare per il microfono, lo sta dicendo con Curio, spendo poco e sto bene. Oh, c'è il frequenzimetro, questo qui, però lo speaker è un po' avaro, visto quello ad ago, quell'altro già si muove. Ma quello, l'altro ultimo, quello digitale ultimo, e l'altro con questi cantaluzzi è lo stesso, è vero. E magari vuole sistemato quello, come si chiama, pulito anche quello lì, perché qua mi state arrivando a Santiago 8 tutti e due. È bene, non arrivate di più. E già lo grido, deve arrivare a meno 9,25, vabbè, non dico con quello, qualcosa arrivi a fondo scala con quello digitale, con questo qua invece no. Già sta, non ce l'ho. Va bene, dai, continua adesso, lo metto via questo qui, ti mangio tutti i tipi da penzolone, non mi piace tenere la roba così. Io faccio la più voce al costello, poi non piace. Dai, un attimino, ok, poi riprendo. Ti faccio camminare tutti, dopo ti faccio sentire l'Inter che è stato una base e poi altri due. Cappa, dove cosa ti sei piazzato? Mi sa che pensavo la bancarella. Fevene. Urbia. E allora quasi come vedete di bello? Mi hanno invitato qua e adesso poi faccio il lavoro se c'è qualcuno. E boh. Fa cappa. Meglio così, te ne devi stare invitato. A me la magica a gratis. Passare dai, meglio bevere. Meglio bevere. E ancora meglio bevere, ma con quello che hai mangiato ieri avanti, mi sa che la birra e il vino non ci sta molto perché comincia a gonfiarti lo stomaco e sei già vedo che è pieno. Troppo. E cosa vuoi ti dica Antone? Basta, là ti dica tu i beni. Lo so. Anche lo dici, ormai sto vecchiando. Ci sono anche rincoglionendo. Non voglio esagerare, ma peso come minimo 90 kg. Sì, non sei tanto peso adesso. Certo. Potete lavorare, poi se peso 90 kg già va bene. E tu c'è ben chi lo stai usando? No, perché quello c'è la linea, lo sta sistemando lui che aveva dei problemi, in quella casa lì mi stava rovinando tutto, se ho preso e l'ho subito tolto, mi sono scoperto un paio di condensatori e gli ho dato a lui e lo mettevo a posto. E ho detto al momento opportuno quando cambio casa, ho detto che sono come si deve a posto, che non devo fare altri traslochi, me lo porto subito, ho detto. La zappa. Andare. Dunque, ti sei sposato, sì? No. Dimmi qualcosa. No, non mi sono sposato. Forse per... in cosa? Convivo. Qui c'è ben bene a buttare tutti fuori dal terrazzo, eh? No. Almeno c'è anche la Siminea qua. C'è venuto anche cosa qua a casa, parecchio tempo fa. C'è venuto anche tu pure, l'altro già te la ricordi. Già me la ricordo. L'unica cosa che non c'è la mantova, c'è davanti alla macchina, attaccata alla staffa, c'è una staffa, un cristallo di quelli di lampada, l'ho messo davanti alla macchina, ho visto che c'è bene, per il momento va bene così, poi in seguito metto la mantova, faccio un impianto come si deve, metto la mantova nuova, la mantova quella mia ce l'ho ancora, l'ho tutta rimessa a posto e subito funziona, c'ha quelli più di 15 anni, ma se ne porta bene. Qual è? E io ero bene. Beh, io sono una cagata. No, è più bassa la produzione del 7, non vale, però va bene. 5. Questo è lo stazione base della Integra, il baracchino più bello che c'ho, solo che qua devo trovare il microfono che funzioni bene, perché ancora non sono riuscito a farlo uscire. Voglio provare con l'SB appena c'ho il tempo e vediamo un pochettino. Questo è la stazione base col microfono da tavolo della Integra, l'MC33. Purtroppo non spinge questa radio. Non spinge, no. Ma quale stazione base della Integra è quella? La F qual è? No, il Multicom 497, no, è un apparecchio nuovo, questo, come di nuova generazione, c'ha tutto, questo non gli manca niente, tutto quello che può avere è un baracchino, sembra una caixa, è grande quanto 2440 battere un conto, c'ha tutto, modulometro, wattmetro, rosmetro, frequenzimetro, tutti i canali, c'ha 10 bande, è omologato tra l'altro, di quelli nuovi con la tastiera digitale che imposti, metti il codice e ti fa tutte le bande. Un breaker, ciao Gianni, per chi sta. Ah, ho capito qual è. Stazione base il quello che va a 220, so. L'ultima generazione. Non dovresti provare a controllarmi nello schema la LC, perché non sta tirando molto, non lo sta. Niente, lo controlli. Avanti Gianni. Sì, buonasera a tutti, dai. Doppio room in frequenza. Avanti Roberto e tuo figlio. Scusate, io sto facendo un po' di caos, dai, sto facendo delle prove. Gianni, questo è quello che ti dicevo io, quel baracchino che piacevate che hai visto su internet, col microfono suo del baracchino. Ma non esce male, dai Roberto, non è che sia potentissimo, ma non esce male, è una bella radio. Avanti? Appa Gianni, doppio room, buonasera, Sandro Cone, mi rientro da Castello. Ehi, aia, ciao ancora! Come va, come va? Tutto ok. Dai, dove sei esattamente? Ho appena mollato le gallerie. Va. E te lo vedia già, Castiti, con la centiera. Sono andato con la 50 dai parenti. Non proprio a Cagliari, però zona più verso Iglesia, Irlanda. Ah, ce lo sapevo che andavi. Cosa c'è? Questo sì, con il microfono, che c'ha l'eco tipo per cartello. Chiaro, perfetto. Un rifornitore di andando a Cagliari, che vede questa apparecchiatura di baracchini, eccetera, eccetera. Ah, ma tipo un grossista o cosa del genere? No, lì vedo il dettaglio, dentro praticamente c'è dove c'è il bar, eccetera, eccetera, dove c'è il rifornitore, dentro il rifornitore, quello del rifornitore stesso. Vede microfoni amplificati, insomma un po' di tutto, lineari, baracchini. Cavolo, si è scelto l'attività giusta, Sì, perché i camionisti si fermano a mettere nafta, entrano dentro, si bevono una cosa e vedono gli apparecchi e cominciano a comprare, che è proprio azzeccato di brutto. Sì, e chiamano Petro, ma un po' che posso prendermi per me. Questo come va? Mi dicevo questo, no? Sembra un Kenwood. Sembra, però comunque vabbè. Ciao Sandro, non so se mi ascolti. Come no, avanti, anzi a proposito, scusate gli amici che di subito ha fatto ping pong. Ma io ditemi un po' di cerota, vai. A tratti, perché sono scorrimento veloce, la bratella. Vabbè, avanti a lì. Appata Gianni. Vabbè, già è. Già è chiuso, già ho compreso. Comunque è un'altra cosa, non ho visto, è come avere un F10 con Kawasaki 1000. Avanti Stefano. Dottore D'Amico, non so se mi ascolta. Ti direi anche troppo, ha voglia, ha voglia. Allora andava bene. Andava bene sì. Aspetta cos'è, la bracettina nuova, lo svincolo nuovo che ci ha corso la strada verso Aghero. Dove sei lo svincolo nuovo? No, c'è cos'è? Monte Oro, dietro Monte Oro. Ah, allora stai salendo su, già ho capito. C'è montagna allora? In effetti fa freddo, però le neve non c'è. Non lo pensavo nulla, l'amico Stefano, non lo pensavo nulla, forse non ci siamo mai sentiti. Poi Roberto, da questa parte, buonasera. Monte Rosello. Monte Rosello, la faccia, sta arrivando la di Luca tu no? Eia. Ah, hai visto il segnale di Luca, ci ha detto, questo segnale è conosciuto, là. Tanti anni fa, un mulatto io ho preso lui, e lui ce l'ha ancora, ne sa. Ma sei dalla casa di Luca stai modulando tu? Sì. Allora, ho ripetuto questo segnale, questo segnale mi sembra conosciuto, là. Gianni, sta dicendo di questi due tipi, queste baracchine a distributore dove e in che zona? Allora, di magari, il vicino lo sa con precisione. Cioè, praticamente dentro il rifornitore vai tutti apparecchi CD, lineari, microfoni, apparecchi, radio, eccetera, eccetera. E quando si fermano i camionisti a rifornire, poi entrano nel campo del caffè, entrano dove vedono gli apparecchi, sai, i camionisti quasi tutti se lo mettono, c'è antenne, di tutto c'è. Ma appare dentro città o andando a Cagliari? Vabbè, una domanda anche 10 milioni, io non so, ma c'è un altro Gigino che c'è questo tipo qua, però non so dove sia esattamente, né se è in città o se è fuori, questo non te lo so dire, però so che ha un rifornitore all'entrata, non me ne ricordo di dove, boh, non è proprio in città, non penso che sia in città. Ah, va bene. Poco fa l'ho fatto sentire un paio di baracchini che non l'avevamo conosciuto. Non hai sentito tu la faietta guai? Dice che c'è la bomba, meglio della la 48. Così è. Oggi mi sta dicendo Antonello e coso, e Franchetto dice che c'è meglio di quello della 48. Forse io non l'ho mai sentito, non posso dirti niente. Non l'ho sentito né la 48 e nella guai. E vabbè, vai, ma come te lo faccio sentire anche a te? Un attimino di bianco per me. Ehi, ehi. Avanti Stefano con la buonasera. Buonasera anche a lei, chi è? Gianni Doppio Rumo. Piacere. Piacere c'è tu mio. Cava cava. Va bene, là. C'è anche Pomponio. Avanti Pomponio. Volevo sapere che ti ha fatto fiaschetto. Fiaschetto, la Caduino. Che fiaschetto? Fiaschetto. Vabbè, lui ha cicchetto si va del buccione. Adesso, se per questo lo facevo anche io, tanto tempo fa. A bicchiere, ti passava il boccione e fissava alla migliana. Ma tu una vecchia spugna hai, naturalmente andrò una vecchia spugna. Sì, cazzo, io mi ricordo quando abbiamo campato a coso, a come si chiama, a Carlo, viene zitto, poco. Cazzo, guadagnava più del CB, che da quelli del manicomio che ci andavano, cazzo. E chi ti è più grato, tutto quello che l'hai visto? Sì, cazzo, che ti è più davvero, e sempre anche che mi sono pigliato in chimica, dalle 8 del mattino, quando sono arrivato quella del giorno. Perché passava prima lui, poi passava il fratello a fare le gare a modificare i lineari, poi passava fino a Andrea, poi passava Chittato, ma bel tempo anche perché ho conosciuto l'Esco, posto gli ho invitato il caffè, la massa caffè, controllava tutte le macchine. Gianni non ha conosciuto quei fin tempi, io sì, all'epoca era bello, tutte le mattine, tac, finché poi aveva presentato la cosa, a tu ricordi Stefano quando capitava al monte, il verduraio? Chi è? Qua c'era tutte le verdure di zitto, a San Carlo, cioè, c'era il baracchino anche lui, che non mi ricordo il nome adesso. E un giorno l'aveva bloccato con la macchina e dice, mi faccia vedere il baracchino, dice, no, non gli ho fatto aprire la macchina, non ce le chiavi. Roberto! Non mi ricordo si chiamava Roberto, boh. E qui c'era tutti i verdura, proprio a fianco al bar. E boh. Sì, poi c'era anche Roberto Cosa che parlava baracchino, che c'era ancora tuttora, anche la sua, c'era stato un ecco. Roberto... aspetta... non mi ricordo dove mi attivo adesso. Comunque, quello di Becchiola... E ne ho fatti due, ma Roberto la tua Mario. No, Riccardo, semmai. Non la sto confondendo. Cappa. Riccardo e Roberto erano dei fratelli che parlavano baracchino dalla Vittimo Bianca, per esempio. C'erano l'FM500 SMI, lo chiamavano Mezzovat. Poi c'erano l'idea attaccata al cofano. pomeriggio siamo scesi in camera mortuaria e ci sono fatti aprire quelli dell'escopo sulla la smala per entrare in camera mortuaria a noi. Noi siamo usciti dall'altra parte, perché allora si poteva entrare dalla via d'Italia e uscire dalla via di quella di Cola. Ehi, davvero mi sto pensando. Perché c'era Valente Incusi, c'è il telefono della nostra, non mi ricordo di che cosa, con l'ideale. Si metteva vicino alla camera portuale e parlava la lingua. E finché non avevano avvisato, mi diceva, mica se non c'è nel buco del furgone, c'è, non furgone, una jeep grigia, c'è con tutte queste antenne, davanti alla spalla che deve entrare. Ma se detto, quello è l'esco, passa gli aiuti da demo. Zappa. Ho mandato i saluti da parte tua sul PC, no, che c'è il cavallino, sono di Alghero, è Carlo, non mi ricordo il nome nativo, è stato sotto a Compugno. Zappa, io capito, ho capito, non lo so esatto. Comunque, Alghero ce ne sono tre, mi sembra che ci sono andando adesso. Dei ricchi, a parte quello che ci ha fatto, che è mezzo famoso per io, ma comunque ne sono spariti parecchi, Zappa, ho tante soldi la compone, poi mi hanno ancora vivo, detto spero di sì. E sono ancora vivo. Coraggio, canta te. E chi? Cavallino e coso, perché solitamente canta. Guarda, non so se la conosci, quella... certo si chiama Partak, entrano lì tutte le sere, io quando mi vedo là entro, se non devo cantare metto musica, oppure scrivo. Ehi, no, adesso l'ho entrato anche io, già lo conosco, io l'avevo tanti anni fa, ma andava in conflitto con altri programmi e l'ho dovuto togliere. Comunque sono entrato anche io a cantare lì e anche mia figlia ha cantato. Molto, sì, è bello, divertente, e poi quando canta Cavallino mi crepo dalle risate. Sì, dai, dai. Però posso mandare in lingua spagnola, mi dicono una marea, dove vuoi, dove ti piace mai? E non è nemmeno un pagamento, non si paga. Lo so, soffiamo so, sì. È bello perché conosci un po' di gente, ma in qualsiasi nazione poi. Eia, sì. Io ogni tanto cioè vado nelle spagnole. Hola, ciao, cerco di scrivere in spagnolo. Già lo so, ti sono il telefono. Comunque attorno. Già è forte, sì. Io l'avevo poi ristallato e poi non l'ho più usato. Perché Luca me l'ha detto che stava entrando in questa chat qua, che dove cantavano eccetera eccetera, l'avevo provato per un paio di volte, poi mi sono un po' stufato la verità, e sono entrato su Facebook, coso, ma quindi sono una fogna, no, meglio niente. Lo so, ma c'ho amiche, capito? E la sera chattiamo e cose, quindi già mi trovo bene. Se non hai il giro è brutto perché è freddo come cosa, però se hai amiche, io faccio parte di un'associazione, quindi tutti i soci sono lì e ci troviamo lì, capito? Se così già va bene. Sì, perché c'è gente che conosci, ci mandiamo anche i messaggi, invece di dare al telefono mandati i messaggi, ce li mandiamo sempre sempre. Cappa, ma questa chat può fare tutto quello che vuoi, fa una videoconferenza, se vuoi non attivi la web, quello che vuoi, se vuoi non scrivi solo. Già va bene, dai. Ce l'ho avuta tanti anni fa, l'ho avuta, se quanti anni esiste in falsa. Da quando ho cominciato a avere il computer io, figurati. No, ho letto un 6 anni esiste, non di più. Tu ce l'hai il computer? No, negativo. Quando devo chattare io vado direttamente in Piazza Nolanto, giro via delle muraglie e faccio busto la foto e chatto con le brasiliane e le spagnole. Per piccare? Allora, le conosco tutte, cazzo. Forse! Eia! falsa che esiste esattamente dal 2001. 2001 sono 8 anni. No, perché io avevo avuto il primo computer e sul primo computer c'avevo Falcalc. Poi l'ho cambiato, ne ho avuto un altro, poi me ne ho preso un altro ancora e insomma, e ho fatto memoria dal 2001. Cappa. E dopo tornare il baracchino, no, io scherzo molto. Infatti entro, mi bannano, e non riesco più a entrare. Dunque che devo fare? Formattare il PC e entrare con l'altro nick. Siamo oltre più una volta che ti bannano. Io lo so. succede sempre così perché c'è il moderatore a chi... Ma cazzo mi vuole dire che siamo appunto sempre tra. Dici una parola di troppo e ti buttano fuori. Una volta sono entrato in una chat. Mi ero dimenticato di abbassare il tasto perché c'erano le maiuscole. Ho uscito con le maiuscole e mi hanno buttato fuori. Anche quello sì. Non esagerate, c'era scritto chi scrive con le maiuscole sta gridando, una cazzata del genere, vabbè. Comunque ho preso io, ho cambiato lì, che tu hanno seguito la lettera. Vabbè lì, poi questo papà che ti cacciò l'email del PC e dunque non ci riesci più a entrare, anche cambiando nick. Dimmi, che posso formattare? Allucinante. Dio mio, un'ora e mezzo, ma non è niente importante, con la testa torna a entrare, e lui mi torna a fare il buio. Gava. Ma Roberto, ancora c'è? Stava detto che si aspettava un secondino, si arrivava subito. Avanti, chi è? Un'ora, come la buonasera a tutti. Ui, Bulldozer, dove te la trovi? Pagava, come ti sta arrivando in quella zona? Prova così a vedere. 9-5. Cavagava. Andava bene. Cosa stai pescando, Massimiliano? Pescato bene a me. Abbiamo la più ultima pesca che ci darà. Così è. Sì, a valle di Magliardo Arco. Sono Magliardo Arco. Va bene. Anche se in questi giorni io non me la sento di mangiare. Anche di qua. Stasera me ne devo andare in pizzeria perché vogliono andare loro, anche se no io. In questi giorni non stavo mangiando nemmeno di sera, mangiamo solo la mattina e basta, perché mangi un po' di cuccarini e dopo ti senti male. Allora io facevo una cosa, ma buttavo a pranzo, ma la sera non mangiavo più nulla. Un poco di tutto quanto mangi sempre molto, poi ti mangi un poco di tutto, vabbè, sempre un mese ma niente. Avanti Alessio, vediamo un po' se assentiamo Massimiliano. Ale, Stefano, tu lo senti a Massimiliano? Bacio, buonasera Massimiliano. se mio nipote sta andando, ma hanno detto che stanno prendendo dei saraghi bellissimi, cavolo, tutti quanti a galleggiare. Stavano provvigliando saraghi e coso e occhiali. Anzi, dice che stavano provvigliando a pane. Subito il nome di Roma. E che zona? Mare di Furi? Mare di Furi, sì, verso Stintino lì. E tappa, è preso sul suo. Stanno prendendo per picca, ha fatto un chiletto e mezzo di roba, ma pensi sui 250-300 grammi, no, grandissimi, però come quantità ce n'è. E taglia la porzione, là. Gappa. Io invece la volta che sono stato a ho preso un pesce un po' strano, abbiamo fatto 4 gatti elettorali, siamo partiti a Plattamona, mangiava. Torretta, e non mangiava. Alla fine c'è un stampo dottore, c'è da lì al passetto ha cominciato a mangiare. E lì ho preso due bei saraghi. Poi però non aveva più, toccava sì, ma roba piccola, c'era mangiare di tutto. Allora non andava bene. Abbiamo provato e siamo andati a Stintino. Tutto il giorno così mi eravamo andati e tornato. Se abbiamo provato a Stintino non mangiava manco i chili. Io mi sono stufato, ho preso la canna, ho cominciato a fare una specie di volentino leggero, di trena leggera, con un po' di spini. Cavolo, preso piano piano, già per Mullero, come si fa per i calamari, eccetera, eccetera. Mi dà una toccata in Sardosia, cazzo di colpo, cioè, mi gira la canna, già metto afferrata, ha fatto lì tirando, io strappato. E gli umiliando in pieno, era tipo una lagna, insomma una lagna ma davvero, c'era stato, era per fare un chilo e 100 kg e 2, una bocca aveva le spine come la lagna, però il colore non era come la lagna, era diverso, la lagna rimane tipo bianco sabbia così, no, questa era su un marroncino, non l'avevo mai visto, era una lagna di fondale. Ma è la sua famiglia? Sì, le spine ce le ha uguali, ne ha due nelle branche, cinque sopra, con l'affare nero che le unisce, no? Ce le presente come te la dritta. La mia giubilata mi dava via tutti i dritti, i cipini. E questa di come stava andando a prendere? No! Se ne curavo, se l'abito a cui mani. E la giacone di Emilia? Cazzo di secca la mano. Era perché siamo andati dopo Rapperosa, lì non visto dove sono quelle rocce che vanno verso la torretta, tra la torretta e quelle rocce che ci sono, noi eravamo dietro le rocce, c'era un pezzo, no? E tu praticamente per tirarla su non dovevi recuperare il traino perché sennò ti si incagliava. E io cavolo, invece che cose sono salito sullo scoglio, no? Sono andato avanti io e l'ho recuperata bene, tranquillamente. Beh, questo animale qua è durato più di un'ora e mezza vivo senza acqua, sono arrivato a casa e quindi la borsa andando a cavare i pini, la pina e si gli dati. Senza Eva, anche mi avevo avuto prima le batterie. Guarda che hanno una resistenza all'uscita per strapisci. Sono certi pesci che ti muoiono subito, questo qua, questa da zuppa sono allucinanti. Massimiliano, dove sei arrivato? Qua, dai, imboccando la quattro così. Questa qua è due. Va bene. Questa è riparlata in due. Avanti chi vuol parlare. Sono tratto. Prego. Bravo, Massimiliano, allora che ti gira la Zemo? Allora, non so come stai facendo, ho fatto folaio. Ciao Falchetto, ciao Pomponio, avanti. Ciao Falchetto, allora, quanto te la cicchetto? Ma già attaccato la spugna, no? Si faccia la moppetta, adesso capisco. Avevamo uno lui di vino di Ussi, a capo a cosa a Natale, mi ha fatto dormire, ha giubito tre tasti, mi ha fatto dormire, ma dormire proprio, dice che stavo russando, gli mancava a mia moglie, mi ha detto che gli mancava solo la molla. Ma non mi sono crescita da poi tranquillo, non avevo energia, c'era niente. Mi hanno portato Zanuracchi, questo qua che me l'ho portato è questo qui è un cannonau di color rosso proprio. Questo rimane nemmeno amabile, però l'amarognolo non rimane alla fine. Guarda, sento una buchetta, non piso vero. Infatti come non lo sto muovendo, mi piaceva più quello di Ussi, che c'era un po' di dolciastro e appena di gasata, ma poco, ecco. Ma si farava a pari alla gorgianizzera, invece di tagliava l'acqua. Guarda credo io, chi c'è per questa già? Ah, ci sono io, c'è Massimiliano, Pomponio e Stefano. Salutori Stefano, Pomponio, e la figlia che l'ha già salutato, se l'ha copiato. Riprendi Gianni. Ehi, c'era anche Roberto il Quadrato, ma dice che sta facendo cose, non so, lo sta combinando. Ma. E adesso sto per uscire. Sto per uscire con tutta la famiglia. Ma da giocare, dai, di andare, ma. Sì, va bene. Allora, ti guarda passeggiando di l'altro, vai. Riprendi Roberto. Hai sentito l'amico, Stefano? Ehi, Stefano, hai sentito anche a te, dai. Salutoni, auguri. Grazie, le cambiate. Guarda, c'è le falchette comunque. Antonio. Allora, vai. Penso di sì. Ma io vorrei sapere, la casa la stiamo andando con questo Stefano. Di Luca, mi con un uomo simile. Chi è Luca? Luca Manicomio, Luca del Mondo. Ah, la parrocchia. Quindi dalla sua stazione. Cava. Dai, politico. Ma io conosco Luca e la Carletto, faccio. Stefano è la tua grandina. E la tua già sei due. Due volte, fatelo conto, ho già discorso, e mettiamo un'altra, fa che bevi. Ah, beh, quello è poco, ma sicuro, Se è per l'osso di sera, per tempo si spera, ma si vedrà. No, ci sono problemi. Ma domani si lavora? Se si lavora, sta a cambiare la bottiglia, Poi quello è poco, ma sicuro, vai. Vediamo di stancarci, va, tra un'oretta, più o meno. La moglie e i figli ce l'hanno vendo che non capiscono niente, è una miseria. quello sì. Guarda che io ho liberato, me l'ha recuperato di cosa, ma Emanuele, figurati tu. Emanuele mi ha recuperato un giorno, mi è venuto, diciamo, a scaricare la mondezza, due inter34 circa qua a casa. Due attestificatori di antenna per VHF, un bici da 50 nuovo nuovo, un VHF nuovo nuovo, un reggente, se lo c'ho qua, un paio di metatori e due linee a 30 watt, ti dico quelli piccolini piccolini. Bene, cioè stavo buttando la modesta perché il padre era morto, il figlio era pigliato e te l'ha fatto tutto. Glielo va, puciava antenne di VHF, quelle non sono, non le ha recuperate. Però quegli apparecchi ce l'ho qui, dove i numeri fiammanti sono, l'Inter. Infatti quello sto dicendo io, infatti un domani non c'è più tu, tu sei io e tua figlia, quello ci butta tutto. Sì, sì, quello sì, e non mi sono vero, io sto vivendo per uno che c'ha un bel roba c'è la sua, la rete, chi muore chito, lo migliore del piatto l'ha fatto tutto, roba lì, mi si faccia 500 pareti in casa sua, come la rete, lì c'è andato così, il CB. Tipo, no, tipo un vespa, del miele. Ah, no. Tu prendi Gianni? Io già ho comprato, già ho capito che dice, ma come non l'ha accorto, ce l'ho già detto. In effetti è così, sì, per colpa non lo sapevo che vendessero apparecchi, apparecchi, no, non ne ho mai visto, questo radio, tutte queste cagate, quando entro lì dentro mi sembra di entrare in un tranullo. Non lo so, se tu vedi un apparecchio che è bello, e lo conosci un apparecchio, lo conosci 50 euro, subito lo prendi. Eh beh certo, poi non so se funziona o no. Io poi dire, al mercatino dell'usabile, quando lo facevo anche a Talesini, avevo visto l'apparecchio radioamatoriale, bello, un bel grande, e ho chiesto, ma è funzionante? Mi ha detto, questo non glielo so dire, io l'ho preso come pezzo antico, e so che valvolare, eccetera, eccetera, mi ha detto che bisognava scaldare le valvole e tutto. No, non so se fosse funzionante, lo stavano dando 150 euro. Se io fossi stato sicuro che funzionava me l'avrei comprato. Trappa, lo potevi prendere e provare. Come lo provavo? Era di quelli elettrico, non è a batteria di macchina, non c'avevo modo di provarlo. Ci sarebbe voluto un transfer da 12 a 220, ma io non ne avevo portata di mano. E praticamente mi ha detto, io sto prendendo come petto di un antiquario, però non so se funziona. Può darsi pure che funzioni, ma è toccata di chi si antichi, ma bello, mi con microfono. La chiusa o la bolla spacca, Michini. Se tu rubi le funzioni va un inverno. Guarda che ci sono gli inverti dai cinesi lì, 3-5 euro, mi fanno 12 volt, 220. Sì, dopo mi fate come il saldatore che la prende di fuoco, l'ha attaccata alla presa, nuovo, ha cominciato a scifumo, stai, ma come era l'inchino, che ha saccato tutto. E a Pierpaolo gli ha fatto la stessa cosa, poi se l'ha preso la Talino, gli ha fatto la stessa cosa, di sciurci. Io l'ho preso in dialetto rotolo, se non ha preso fuoco per niente, perché era dentro la busta del... Quella che compri le gusto, stare uguale, non ho sciolto così, se ho compisciolto così lo giro e non serve niente. E mi ero pagato 3 euro, ma funziona benissimo, è perfetto, 35 watt, era pigliato in vera proprio cosa, sai, quello quel cinese lì, e c'è un bel roba di elettronica dentro. Anche il mio comunque era in confezione, era confezionato, il mio era chiuso, non era aperto, come quello di Natalino, quello di Pierpaolo, tutti e tre, sicuramente erano pigliati tutti e tre, non mandaci lui per altri difetti. Quando vieni a casa ti faccio vedere il mio, e non è che il mio, lo lascia facendo stasera a 4 ore, era pigliato fuoco, se no con Falchetto avevamo visto il fumo, quello stavo usando io stasera con Falchetto, un bombo come saldatore. E cosa stavi modificando? La parina? No, lei ha attaccato un microfono a un corso, a un barattino. Quale è il corso? Le... Ma come si chiama? Quello che le ho dato io, la sala. Sì, quello che fa una voce alla donna. La donna? Sì. Cosa lei deve aver attaccato? Sembrava così. Sembrava cosa sembrava, ti posso dire, Gianni Morandi all'età di 70 anni era all'età di 14 quando cantava. E infatti perché te non va bene fa che tocca la voce grossa con quel microfono lì. Mica è una statica, la statica è rinnovato con il microfono, non è un microfono da brindisi. Quello che vuoi, ma anche a lui fa la modulazione di varie cose, pare. Meglio che non lo senti, so. Dici, bello microfono, no. Cosa dite? Mi sto facendo fare attaccare lì, così vedi come esce. Adesso si adatta a quel baracchino, prima ci va bene, quando ce la verba sul coso, dove era attaccato per il palo ci va bene. Comunque non va bene con la statica in quella, la scala mobica non va bene. Adesso si è attaccato il microfono. Arrivi se sono andato di quegli apparecchi, non lo so. Comunque non mi è piaciuto per niente con il microfono, in realtà se me lo regalo dove voglio, è peggio delle F10. Quello c'è tra gli altri, invece le F10 è un merito dei passi. Pronto, quello bianco è? No, non è il microfono bianco, il del sì, quello che è passato tu. Una statica grigio è il modello vecchio lì. Uscito, cosa si intende che è modello vecchio? È l'ultimo uscito della statica, che è uscito dopo il diavolo rosso. Io sto parlando, non è che il modello sia vecchio, come tipo di estetica rimane l'antica lì. Rimane qualcosa con lo spaziatore per la bocca, per non avvicinarsi più di tanto, c'è una specie di lamella davanti al microfono, di modo che tu non avvicini più di quel canto. Ah, no, lui me lo pensa a uno, la facciamo a Pier Andrea, infatti quando entriamo, a me Pier Andrea, non ci lui. Ah, che ci va della papperina, di cura. No, la voce grossa ti faceva, anche papperina, no? E ma come le portavi? E che cos'era? Che microfono era? Nell'anno mi pare quello lì. Ma comunque non lo pensavo, non mi ricordo la marca. Uno di quei microfoni che vendono nei quei giornali proprio la capelle vendevano che faceva la voce camuffata, capito? Era bianco il colore, c'erano quattro pulsantini e secondo quante volte schiacciavi ti faceva la voce di Pier Andrea, faceva la voce da papperino, la voce da nonna, o la voce da proprio colorosa, rossa. Si agganciava alle colette del telefono per cambiare la voce, un coso, adesso non mi ricordo, non l'ho più visto in vendita. Qualche giorno che faccio qualche cosa, faccio qualche controllo, qualche rivista, se lo trovo non lo incontro. E me lo piazzo così e con quell'effetto lì, faccio la voce di piazza precisa. Ci sono su internet quei microfoni, li ho visti io. Ci sono su eBay, li ho visti io, nuovi di zecca da negozio, c'è quello che fa le voci, papperino, eccetera, eccetera. C'è un altro che è da contorno musicale, poi ce ne sono altri con i bip, 3-4 bip insieme. No, è un trucco a voce elettronico, per esempio, si chiama trucco a voce. C'aveva il microfono davanti e l'altro parlante dietro, e di quei trucco a voce che si agganciano per parlare a connettere il telefono, mi capito? No, questi sono proprio microfoni, mi pare che sono tipo F10, quella roba lì. Avevamo piazzato un microfono tipo M300, rimaneva largo e ci avevamo messo lì, ma lo rivedere, lo rimettiamo con la batteria da Robert Voss, lo rivedere la voce che faceva. Più di una volta l'abbiamo pettinato Andrea stessa. Lo paripino l'ha fatto a un sacco di gente. E quando mi sentivano, a me grande la macchina di sotto me l'hai, e via là, e dopo gli appuntamenti, buon milione. Ah, Guardate. Ce la precisiamo, ce la come qua. Io sapevo come parlava lui. E lui che parlava con me lui, la voce sua. Tutto il cavallo. E tu perché? E tu perché hai mollato con la frequenza? Come hai mollato? Non mi va più me. Si ti ha scocciato un certo là. E ho lasciato lui la eredità. Sì, vabbè, ma adesso fra poco entra Falcone, quindi sedete, ci divertiamo. Ehi, Pomponi ha fatto l'antenna, vedi? Pomponi, no? Vivi? E ce l'ho quel giorno. Ce l'avamo io e tu, Maria Luisa, la buon'anima di Coso, di Rambo, di Colino. E poi ha saltato, non so cosa ha fatto quella volta, ha saltato con le tacce della metà di riga. Allora, eravamo, dove eravamo un po' a Cosio, eh? C'è Costantino, stavo rientrando, me e Falcone, me e lui, ma tutto la scena me lo portate, lui sinceramente ubriaco. So che se cazzo vuoi fare con me, che sto aprendo, c'è tutta la scena, c'ho salito e l'ho buttato a terra. Ma dimmi tu, c'è un muretto, un meno alto, non vuole ragionare 15 metri, che andiamo dall'altra parte. Non so come ti hai cazzo giù a passare. Con il rischio di farti male. E l'ha attaccato, ragazzato, un po' sul canale. L'ha tirato con la macchina. Ma no, prima gli ho staccato tutte quante le radiali. Dopo l'ho preso di fianco, l'ho abbassato, si è piegato il tubo e infine ho trovato a pizza che l'ho fatta. E non chiamarlo. Adesso mettimi la portante. E dopo si è ripreso, non ho messo la antenna, tutto quanto. Dopo non lo so, ci esiste ancora Falcone. Che esiste, sì, è su, tra la sorella. E non va che detto, mi sono stato io, sono buttato io. Ah, non ho detto niente. In colpa con la gente così, ma da. Era una persona che non era sana, dai, era malata. Ah, non è vero. E dopo mi sono anche pentito di aver fatto quello che ho fatto, Beh, lo so, ma magari ti ha fatto del nervoso, perché da qualche numero del telefono. Luca Bugioni, tanto del solito 27, mi chiedo Luca. C'ho le registrazioni, c'ho su internet, avevamo fatto un sito dove c'era Falcone e una parte di calcio dei cibi di Sassa e Pozzontones. E lui l'avevano vestito da arbitro, no? E arrivato un cappettone con la schiuma da barba, ne bucava solo in naso, più piedi. E poi entravi, noi c'erano Falcone che si incazza con Piero Drago, Falcone a castroccare, Simone a grande, andiamo, come c'è un cavallo. Andiamo a parlare, ma come andiamo un attimo giù. Ma poi Falcone che si incazza, una parolaccia. Quella, ragazzi, mamma tua, quella, ragazzi, mamma tua. Io in qualsiasi parte mi trovavo un po' dottore Salveo, lo sentivo come se fosse a Sassa, è una radio, ma che apparecchio c'è invece? Cazzo, ma arrivava forte, e quando si stava a chiedere tu, cazzo, ti metteva portante e non ti metteva a vendare, ciucucciù iniziava, mamma mia! Poi su Baracchino così a passaggi di 3 ore, non l'hai mai passato il finale, mai. Ah, tu mica faceva passaggi che non muoveva, però si metteva su 40, magari parlando con noi, dopo ci spostavamo, lui stava ancora parlando, non aveva ancora mollato, e noi magari facevamo questo in un altro canale, poi quando mollava non c'era proprio da nessuno che ci rifugiava in due anni. E non lo so. Una volta ha detto che mi chiamo orgasmo. Ha detto che cavolo di cane, avete sentito l'orgasmo? No, io ho detto che ero nuovo, cose, che avevo 16 anni, cioè, perché lui faceva le ragazzini, no? Tipo gente busso di Biazia, come si chiamava quello lì, ma stupi. Ehi, ha parlato giù, no? Il giocatore della casa. Che peloso. Mi sentivo più bello. Sono piani che non modulo, l'ho trovato a cosa sono messa che era la piazzetta, ciao, sei tu, ciao, e che c'è? No, ma tu stai, mi l'ha pisato subito la volte. Ti la dico, io non sta più modulando, la sorella non ne fa più mettere, dice l'avete fatto la tirare troppo, adesso è tranquillo come ragazza, cosa, come ragazza, ma la minimo 60 anni va, no? No, una cinquantina penso. E forse ti mando di me, ti naggio 52 io. Poi un'altra. Buonasera. Ciao, Natali. No, non avrò una cinquantina. 10 anni fa, su 40 ne avevo, una cinquantina è nata. Poste, insisto io, sai perché? Perché un ragazzino quando era già grande, piova, già la quarantina d'anni ne aveva avuto, già ti posso dire, ci davi un 30, 25, 30, e lui ne aveva già sui 40 anni. E poi la faccia inganna. Magari, ma con il capo è rimasto giovane. Perché io me lo ricordo una volta, mi ha detto, mi importi con te, io sto andando alla parte della macchina, allora c'era nella porta dottore dove c'è la cartolina, lì c'è un vascone, andavo a lavarmi la macchina lì. Ma mi importi, e ho detto, vabbè, aiuto, mi ha detto, mi fa cosa? Mi ero inchinato lavando la macchina, e lui lo ci mampanava. E te lo andiamo a te. E lui mi ha detto, niente. Posso alzare lo stereo? Alza lo stereo. Alza lo stereo, questo è un volume. E ho detto, poi mi sto mandando, a me non dire niente, se mi sto come ci ho messo animali. Ma non dico niente. Dopo come ti accompagna da casa, è stato lì, mi ha attaccato il baracchino, ero in macchina con il baracchino. E si sente, e cosa c'è Paolo, gli hanno detto? Indovinate con chi ero? Assolutamente. Basta, ero con lo più. Quando andavo lì, il cazzo di bagaccio vicino, lo spiego, come ti cazzo si chiama? Andavamo lì, lo chiamavo, o invitava lui o io, andavamo due o tre, anche per gli amici, no, proprio con i sci. Sì, cosa che hanno fatto, poveraccio, la sassa di vicino una cosa, andando all'appuntamento e andando di sera andato, inverno, tutto buio. E sono vestiti da fantasma con le lenzuola, che se ne fa tu quella nazione che tu cava i piedi a dare il corretto. Le biciclette, ma la voce di girare il buongiorno, butta la stellina milita, la invitata a pranzo a casa di loro, poveraccio. E la di buongiorno, la milita, non coso, non butta la stellina, si è tutta cadenata, è tutto con i lacci, e non devi mangiare il giorno in parabatto. Hanno fatto poco, poveraccio. No, io già non lo facevo incantare molto. Mi faceva anche un po' di pena. Ehi, anche a me. Però cazzo, quando era brutto, era brutto. Lo so. A volte esagerava, cercava gente che non entrava, cercava chi c'è all'asso, cominciava a dire parolacce, insomma, era... Però ha fatto la storia della cipriggi di Falcone, sempre se ne parla. Sì, Falcone la storia del CB. Una storia, vabbè, prima era Don Diego, forse tu non l'hai conosciuto. Don Diego era quello che stava col competto di Sasha, dico, come ti si chiamava? E, insomma, era fuggito. No, quello non l'ho conosciuto. quello lì legge i giornali pornografici e ti descriveva il baracchino tutto quello che vedeva. Tu dici, io vedia, in crudo proprio, non è che senza metafora, proprio in crudo di notizia, come ti rovinia di notizia. Quello lì una volta siamo andati in greffa, il coso, mi pare che era Nazarino, sotto quel cavolo, ce l'ha chiamato il carabinieri, ce l'ha chiamato un mito attaccato a un gambo. Chi lo voglia nel culo, chi lo voglia nel testo, siamo fuori dal casetto, adesso ti tronchiamo le ossa. Chi sa bene la chiamata dei carabinieri? Gli dati dei carabinieri, se no ti avrei buttato un mito. No, io e Alessio eravamo solo. Però si parava già su cazzo da lì, per incazzatura di bambino, la ripartono con noi. La polizia ha chiamato, la pistola mi hanno puntato, non è niente. Vabbè, però ci siamo abitati la battimana. Vabbè, comunque, quello lì faceva si poteva arrivare via, uno shooter potentissimo come microfono, cavolo, le diceva che tutti i cose di crude. E stava con quel coperto di sasso, con quello... Come si chiamava la tarina? No, non me la metto. E su, comunque... Cioè, quello... Se non fosse per quel piccolo riflettuto sarei con più bello di sasso. Il più ricco c'era uno dei più ricchi di Sassari, infatti a quello lì gli ha lasciato quando è morto palazzi, macchine, case, insomma l'ha lasciato ogni bene. Questo qui l'aveva conosciuto in carcere lui, perché questo Don Diego era in carcere e questo qui andava dai carcerati a portargli la roba, a parlarci, era tipo un coso, un assistente sociale, l'aveva conosciuto in carcere a Don Diego. Quindi c'è stato di stare solari, era che c'è sul bastone, lo mantessi, e ne diciamo che la parola. Ma se per gli anni, sì. Per arrivi la regina. Per gli anni. Invece ho accompagnava la sorella giù e non è rientrato. Ha detto quanto la fa, boia, cosa mi vuoi fare la faraggiosa? Ragazzi, già va bene, già va bene. Quindi adesso riprendi. Come scendi giù così? Già stai uscendo. Allora dopo sono tutti distratti. K. Tari, non sei uscito? No, negativo. Sono uscito solo stamattina, stasera no, me ne sto svegliando praticamente. Già ti devo fare la drumita. Natale! Oh! Però adesso che lo fai tu il gioco della cassetta? Cosa vuoi? Che adesso lo fai tu il gioco della cassetta? Ecco! Meno male non c'è nessuno qua, quindi l'ho potuto riposare. Dove? Quella storia là, fatta ce l'hai. E tu? Capisci a me, le ha chiamata o no? No, ho liberato pure l'altra, ho una finita, e la giocava lui a fare. Vabbè. Vabbè. E beh, visti gli hai, ci sono ancora, sì. Sì, assisti. Sì, in giro sono. E vuol dire che già si sono imboscati bene. No, se si imboscano a te non li trovano, non esiste. E infatti poi lì viene un po' male perché c'è troppa roba, capite? Quindi viene male a trovarli. Gabba. Infatti. No, infatti la vegetazione ci vuole per quello, tu a me metti una gibbiata troppo di pianti, ma io le so le cose, se non prese perché ci sono motivi. Un attimo a proposito. Cos'è? Partorito l'altro? Ecco. Va. Sono rientrato da. E chi c'è per questo? Io, Natalino, c'è l'Alessio che si accompagna da Giovanna. Poi c'è Stefano. Adesso come ho capito? Ti accompagna la sorella giù. Ah, no, ho capito bene. Vabbè. Di cosa sto parlando? No, stavamo parlando di acquari. A Natale non gli ho fatto l'acquario, l'acquario, no, ma si pesce tutto quanto. Due giorni dopo li sono fatti i pesciolini. E chi è che li farà padrino? Tu li farà padrino? E io li ho scelto già le... i pesci già con la panna fatta, perché ci vuole, io ci vado a tanti anni l'acquario. Cioè, sono di Natale così, però ci bisogna comprare, fa pochi giorni che fanno i figli. Quindi, due giorni dopo le gallerie si sono l'acquario, sono i figli. Vabbè, diciamo Mario è stato più fortunato, le avreste durano perché quando sono curati bene, e vabbè io non è che ne capisca molto, però so che va sempre controllata l'acqua eccetera eccetera, soprattutto quando c'hai questi coso pesciolini appena nati. No, non è così. No, l'acqua tu, una volta che le pesciole fiacca una volta, l'acqua deve andare da sola. L'interessante è che tu li capi i filtri, che li pulisca i filtri, il motore. Ogni due settimane li cambi due dita di acqua e li aggiungi il biocondizionatore. E l'acquario va benissimo. Io l'acquario sempre quando ce l'ho roba, ci avevo 14 anni quando ho avuto il primo acquario. Questo qua ce l'ho 21 anni, questo che ho a casa lì. Ma dimmi una cosa, l'estate come fai quando sei fuori, da qualche parte stai perdendo una settimana che non vai a casa? Ho provveduto anche a quello, le ho fatto un buco sopra il coperchio, gli ho messo la mangiatoia automatica col trimmer, ogni ti dà da mangiare, carine, io l'ho posizionato così, alle 8 di mattina, alle 8 di sera, e i pesci continuano ad andare a fare. Ho trovato già in mezzo alla roba vecchia, adesso mi sono sotto mano CQ e computer del 1985, poi c'avevo CQ retro del 78, ci sono tutti i baracchini, tutti i microfoni, non sapevo che la spanda del 500 la facesse la carne, lo sapevi tu? Te l'ho detto io. No, forse l'hai tappato un altro, no, e ho trovato quel cavallo nel 1985, allora ci sono scritti, allora, le spanda del 500, 179.000 lire. Di più 3 B, quello che c'è io 119, 116.000 lire e 500, poi il più 3 palmare, perché ho fatto davanti la palma, 91.000 lire, il più 2 la palma, 103, costa più il più 2 che il più 3 la palma, lo sai. Lo so, ma il più 2 non verrà di più, il più 2 è quello celeste grigio, le più 2 U. Sono tutti i baracchini, non baracchini, chiamavamo i baracchini della Kenwood. Non so quanto costava l'85 il 430, PS 430, 2.888.000 lire, e 930, 5.757.000 lire. Poi c'è la Mantova 1, lo so quanto costava la Mantova 1? Un bel di rameggia, 94.760 lire, la Mantova 1. Non so che costavano così. Ma diciamo che io allora ero ragazzino e usavo antenne piccole, usavo la Grand Play dopo e poi ho messo la Mantova anch'io, ma a casa di mamma poi gli dovevo tolta perché c'era quello di giù che non prendono le palle, che disturbava il televisore. Allora guarda, cioè, ci sono tutte le antenne della Sigma, la nuova PLC 31.390, PLC 100R 33.200, PLC 144, poi c'è la Mini Grand Play, costava 37.000 lire, la GP 80 60.000 lire, la GP 145, vabbè questa è per i ragazzi, più piccola, 34.000 lire, poi ci sono le antenne Frenzel, Aldena, quelle veicolari, vabbè bene, ti sto dicendo, c'è di tutto qua. Impressionante quanto costano le apparecchi HF. Il microfono LC60, quello che c'ho io, costava 283.000 lire già. E l'MC85, che pensavo che costasse di meno, costa 2,76. Ci sono 7 euro di 3 euro di differenza, no, quanti sono? 76 contro 83, 6 euro di differenza. Costa più l'MC60 dell'85. Costava prima la roba perché c'era mercato, adesso il mercato ce n'è di meno, quindi lo mettono a un prezzo per renda. Normale, si è abbassato anche il mercato degli stereo, di queste cose qua, gli stereo per macchina costava una cazzata, prima costava un bilancio. Io mi ricordo che l'Alpine l'avevo pagato 980, 1000 euro, una cosa del genere. Adesso costava una cazzata. Adesso per il subwoofer e quelli della GBL, che GBL è un marco prestigioso, sì. Anche ho visto quello della 500 watt RMS da 38 cm, mi pare 109 euro, una cosa assurda. Io ricordo quando noi avevamo la saletta nostra, un altro 40 scaccino, vabbè scaccino buono diciamo, non ho paragonato della GBL, della RCS l'ho pagato 90.000 lire, io sto parlando nel 1984-85, un altro parlante da 90 watt, 80 watt, da 25 di anni, dopo stavamo un 38 cm da 500 watt RMS, lo paghi 109, cioè c'è stata una diminuzione, non parliamo poi delle autoradio, l'autoradio, io mi ricordo l'aria che avevo io, quello che si apriva, che costava quasi un milione, adesso cazzo ti ricordi la faccia, vabbè che ormai non esistono più, la cassetta non ne vedi più perché sono tutti CD e cose del genere. Vi saluto tutti, io me ne sono di pizzeria. Non sbidere, statemi bene. Aspetta, prima di chiudere già, guarda questo Lafayette, se lo conosci. Lafayette S805 MK2, 2000 canali in AM, FM, LSD, USB e CV doppia, 100 watt di potenza, cioè 3 regolazioni di potenza, altri 4, oltre che la massima, c'è cioè, bassa, media e un'altra media, cioè. Con il Vox, Clarif, Rex, tutto quanto, lo GNDF, eccetera, eccetera, 2000 canali, vabbè, questo non c'è scritto, della Lafayette. No, vabbè, no, non ce l'ho presente, magari vado una figura, sì, però non ce l'ho presente. Con 2000 canali mi sa che non ce l'ho presente proprio, non mi ricordo, perlomeno. Bravo, io vi saluto, statemi bene. E vabbè, già ci sentiamo. Buon appetito, anche no, che facciamo, io avevo andato a mangiare la pizza, va. E stiamo andando in Grecia, tutta la famiglia, siamo andati insieme per stare in compagnia, non per mangiare la pizza, per me, non avevo manco mangiato. Comunque io dico una cosa, non ho mangiato solo a parte in questi giorni, a cena non ho toccato niente, per cui già non ho mangiato più di tanto, perché quello che mangiava a parte non mangiavo a cena. No, io ho iniziato dal 24 notte. Il 25 mattina a casa di mia madre, il 25 sera mangio mangiato, visto che è rimasto da pranzo, ho mangiato, poi il 26 ci avevo ospiti a casa ieri e ho mangiato anche la notte, lo stesso quello che avevo mangiato. Stamattina mi sono più tenuto leggero, però sempre ho mangiato lo stesso. Mi è poco fa, un po' di fatta tagliato nel bianco e poi non mi ha messo roba veloce. Però in questi giorni ho mangiato un bel. E perché anche se gusti le cose, gusti una cosa, gusti l'altra, mangi sempre molto, c'è poco da fare. Perché se vedi le cose, anche se gusti, intanto prendi due gamberoni, prendi un pezzo di pasta al forno, prendi la antipasta, tutto quanto, mangi sempre molto. Io lo so, va bene, interessante, non so se dicevo, c'era anche altri baracchini, certo, c'è questo Colt 2004, c'è baracchini da 40 watt che facevano in quegli anni lì. Questo Petrus, ecco, come il coso, quello che c'è tu, c'è un ecco, costava 670.000 lire, 200 canali, AM, FM, SSD, con ecco, Lafayette e Petrus. Costava il Galaxy, santo, l'ho fatto questo, il Petrus non è come il mio, perché rimanca frequenzimetro, controlla bene. E vabbè, sono fotografie in bianco e nero, non si vede molto, ma ci sono baracchini che costavano pure un bel baracchini, Pullman Nevada, cacchio, Concorde, Viking, Aran 67, Superstar, 120 canali più 120, 195 mila lire, poi c'è il Colt 2004, 390 mila lire, cacchio, un portatile, noi stiamo parlando la lucina FM, vabbè, poi ci sono gli AESU, l'R 2001 costava lo scanner da 25 a 550 megahertz, 950 mila lire, bu. Se senti HP2, guarda per se c'è il Galaxy, se lo so. Apri il povero di Eugeni, quadrato e tondo. Chi non muore si risente. E ho mostrato tutto il reso di scidemario, ciao, è bene, ben sentito. Ciao, vabbè, l'altro giorno sono passato vicino a Topo Tianca. Ma non ti ho visto, c'era tuo padre leggendo il giornale sopra la macchina sua. No, è andato, ma è mattina presto se fa. No, verso le 10. Ma fatti vedere, com'è che è così basso Mario? È basso, sto uscendo con sono uno dei vecchi, tanto per uscire. Niente, là, sta uscendo con l'Argus. Ma poi arriva, non è 9.5 qua, 9.10 quasi, ma arriva molto più forte, va bene, dai, lasciamo per là, ti sento bene, ma ti ascoltavo molto più forte prima, arriva 9.20. Va bene, dipende da che cosa attacco, da che cosa accendo, siccome qui c'è l'imbarazzo della scelta ora, ma lui anche 20. Avanti, chi era l'altro che ha parlato? Avanti. Tanto Mario. Tanto Longo, che lo fondo dello piatto. Oh certo, sono già piccato come della Fonzetta. Beh, tutto bene. Oh, comunque, uno ne ha tutti, Si cambiate. Ma la cosa mi raccontate di bello? Ho visto che il quadrato stava parlando sempre di mangiare, ma sempre mangiare parli. Fammi di là un poco. Sì, ma è una cosa, però non calavo già si può mangiare. Ti devi conservare gli altri giorni, però se vuoi calamo già si può mangiare là. E tu già, Mario, ma mi ha detto se non sei stato bene, non è questa storia? Sì, ma sono stato bene, e c'è la terza voce che può apparecervi, avvio, ma lasciamo perdere. Ma comunque piano piano diamo sempre mattanami. L'erba non muore mai, questi ditemi. Comunque sei risolto, Mario. E per adesso sì, c'è ancora qualche dolore, ma vediamo più in là dopo le feste. Ma non sta lavorando, Mario? Sì, lavoricchiare, devi sapere lavoricchiare, sennò dove vai a mangiare? Sennò che mi posso commettere così, e mi pongo nei semafini. Avvio, purtroppo si mangia tutti i giorni. Io lo so, purtroppo, dai. Sopra la salute non dipende da noi, caro, tutto quello dipende da quello che c'è sopra. Dai. Avanti Stefano, se non sbaglio, così, se non sbaglio, a me la segnale mi sembra lui. Ma chi era Stefano, Mario, quello che ha parlato? Bene, la sto andando, ciao Mario, auguro nel chiamare, dai, se mi stavo pensando non ho fatto in tempo a rispondere, dai, ci sentiamo, mi ha fatto piacere che sia rientrato. Ciao, ciao, sbaglio il doppio rovescio. Io sono, va. Ciao già, salutino anche a QRE, ce la risentiamo, ciao. Ciao già anche a te, ci risentiamo. Stavo dicendo Mario, l'Argus che sei tu, che modello è? Ciao già. 2000 di X, ciao Natalino. È Natalino allora? Natalino. Come è Natalino? Ho sentito già il danno il piccolo, ma mi sembrava Natalino. A me mi sembra Stefano, il fratello di cosa, di qua. Chi era Natalino o Stefano che ha parlato? Io, non so se ho parlato sopra di me. Sei tu Stefano, quindi, eh? Ah, va. E allora ho capito bene, non è Natalino, è Stefano Mario. Ah, boh, no, io ho sentito così un passaggio piccolino piccolino e mi sembrava, siccome l'ho sentito anche stamattina di sfuggita, e mi sembrava lui. Ciao stai comunque, saluto anche a tuo parallelo e tutto il QRA. Grazie, le cambiate Mario. Perché c'era l'altro giorno, capi lui, non so se lo conosci, forse l'hai conosciuto 30 anni fa, è rientrato comunque, io vabbè lo sento quest'anno per la prima volta, dice ne ha uno uguale al tuo di Argus, come me, 5.000 di X mi sembra che sia il suo. Anche il mio è 5.000 di X, ma io adesso ho molti, no, ho Midland, poi c'ho una Kai, mi mangio un poco, un Mobico, mangio un po' di gruppo, non so come che si ponisse quasi quasi. Poi c'è il classico, l'ultimo che avevo pigliato, il Kimoto, poi c'è il 7B, poi c'è l'altro, sempre della cosa, gli FT, ma adesso non vedo il numero perché è un po' nascosto. Cosa volevo dire Mario, Salvatore va a entrare, ti ha trovato, perché dice c'era il numero di telefono e non riusciva a ritracciarti, mi ha detto ma non è che ha cambiato numero, io gli ho dato il numero tuo, non so se sia ancora attivo, quello che mi aveva dato a me. Ho perso il telefono e così che ho dovuto cambiare il numero. E io sono passato qua lei, ma ero di fretta perché dovevo ritirare un vetro che era dalla chiesa, che i muratori hanno lasciato tutto aperto, la corrente d'aria, sbattuto la porta, si è rotto il vetro e ci sono passato, però purtroppo le cose non sono potute entrare, manca dargli gli auguri. Perché se doveva chiedere qualcosa, mi ha detto, ma non è che c'è il numero di male, io gli ho detto, prova questo, ma me l'ha detto qualche anno fa, non so se ho detto se sia ancora attivo, perché lui ne aveva due di numeri tu, mi ha detto. No, come ci aveva il mio, quello di lavoro, e poi ci aveva il mio sempre, perché però lo tiene mio figlio. E niente. E poi adesso rientri in radio, Mario, è solo così per questi giorni che sei in ferie. Oh, già rientro lo stesso in radio, siccome ho dovuto fare una specie di vetrina e ci ho messo tutti gli apparati dentro, mi si può bene, anche se sono uno sopra l'altro. E niente, li sto ancora collegando, infatti col cable ancora con i cavi non ci sono arrivato. Ma appena che ci arrivo esco col cable o con gli AES. Adesso questo qui, siccome era la parte alta, era appeso, e ho fatto scendere quei cavi di gatto e gli sono qui in basso. Avanti Stefano, riprendo. Ehi, forse si è allontanato. Ma chi è rimasto qua? Ci sono io. Mario, Stefano, chi c'era? Ho sentito per sbaglio la carina, stava chiamando Gianni, però non so se ci sia ancora, che ha detto mi sto alzando. E poi c'era Falchetto, non c'è. Ah, ma che ci sono, buonasera Mario. E questo qui c'è, passo passo, sembrava oltre tomba. Falchetto, non lo conosce? Ci ho parlato stamattina, ma questo qui è passo passo. Oh, e gli è successo qualcosa, stamattina mi arrivava 9:20. Io sono, basso sono, Mario. A rispetto di l'ora di pranzo, sì. Sei molto basso, non sei neanche Santiago Nuovo qui adesso. Oh, strano. Addirittura sono basso. Kappa, sembrava dall'oltre tomba. Oh, rispetto a stamane, stamattina eri più forte. Kappa. Mica tratto anche Antonio Bombolo, se non vado errato, Buonasera a tutti, Antonio Bombolo, non sa parlare. Tanto, mi hai sentito anche a te. Buonasera Antonio. Buonasera anche a te. Chi sei? Fratello di Luca. Ah, capa. Da uno dove sei sentito, Stefano? Infatti la modulazione mi sembrava quella sua. La casa del tuo, da lontano. Capa. Pardonne. Dottore, che a te Mario, Ah, Bombolo, l'ho sentito. Scusa, Stefano, ma Luca si deve portare in mano. Se c'è Luca devi apportare il microfono. Ah, non c'è Luca. È in cucina. No, gli avevo dato una risposta, ma aveva chiesto una cosa. Vabbè, dopo la stessa glielo dico a lui. Ve lo dico. Vai, Marie. E cosa vado? C'è tutto il salone incasinato, ma c'è un po' governo in mezzo ai piedi. Caccia a vizio, so che puoi andare a posto di questa cosa. E mai te lo dici. Anche poi una cosa, pallascia, muore tutte passi. Anche io questi due giorni devo restare in casa, perché sono sempre inaffarato tra lavoro e altre cose, ho messo un po' in ordine, anche se ce n'è ancora da sistemare. Ho trovato questi due giorni le sere che non sono uscito, perché per dire ieri non sono uscito, avanti ieri non sono uscito di sera e mi sono messo un po' a riordinare qua, se no non lo fai mai. E gaffa, no, ma io adesso, prima ne avevo 2 o 3. Adesso cazzo c'è una marea, non so come di pulirli, che ci fai dopo il lupo di vita, ed è un po' bilancio di metri. Io lo devo mettere, non c'entra la radio. Come ti sta arrivando Mario di segnale di lì? A me che mi sta arrivando sempre forte. Sì, no, di Santiago sto parlando. 9:10. Quindi a Falchetto non vedete, ma lo devi spiegare. Tu Falchetto sta uscendo con un'antenna piccola. Non arriva nemmeno 9:30, non può arrivare mai 9:20 dalle tue parti. Ci sto stamattina era 9:20, adesso non c'è bagaglio. Mi ha detto pure che ne scende con un orologio, però stamattina era molto più forte. C'ero io, Mario Mao, e lui. Se ti sto dicendo così vuol dire che così, no? Mica mi rinvesti, infatti ha detto, e carichi sulla lotta tomba. A chi no. E domani non le davo ma cura. Ma con questo apparato che sta ascoltando adesso arrivavano per 20. E già. Ok, ma non vedi la faccia della parte, Franca? No, sempre qua, capito, no. Sempre qua con l'UBH, è strano che sia passato così la frequenza, diciamo, vai. Mario! Mario, io te ne ho buttato l'antenna a me. Già? Ti hanno buttato l'antenna. Anche a me? Brava. Ah, sono caduti solo due radiali. Da me se li prendi? E cosa ne posso? Siete conti che l'antenna aveva già di 17 anni sopra me. Ciao, fa qualcosa? Se non che va, poi questa estate magari, boh, o la cambia, la rimetto nuova. Ho gatto il panno, vedo di mettergli a posto il radiale, adesso vediamo. Ma perché il radiale ne hai perso? La cosa è una 5 o una 1, Mario? 5. Quanti ne hai perso il radiale? 2. Vabbè, ti compri il radiale, io vedo dove diciamo l'antenna. Anche? Basta ripigliare la filiera, ci si toglie il pezzettino piano piano da dentro. E se si passa la filiera si rimette il radiale nuovo. Filiera di cosa? È netto, mio, c'è una vitina sotto, cosa mette la filiera? Beh, la tua magari c'è la vitina sotto, la mia c'è la vitatura. Magari sono abitati. E allora? No, la mia c'ha qualcosa, radiali, si va il retro qualcosa, la punta non pone, la filiera è sotto, c'è una vitina. La mia è a vite. È sempre lo stesso radiale, solamente che anziché entrare a baionetta entra la vitatura. Quindi la vettura la devi rifilettarla, vabbè, già si può fare lo stesso, perché cambiare l'antenna, secondo me per due radi quanti metri te ne mancano due. Yeah. Non ne vale, vabbè, anche se c'è da dire che due radiali mari te li fanno parlare quanto quasi l'antenna intera secondo gli anni, ma se si chiede mari da tramite internet o direttamente alla Sigma, mari, riesci a averli a buon prezzo. Ma adesso vediamo, dai, non ce ne hai problemi. Tanto per quello che è, giusto per salutare gli amici, poi non è che devi stare sempre attaccato al baracchino. Vabbè, naturalmente, dai, ma ti fa sempre compagnia. Ti ricordi prima avevi tutti i lì, era un po' di mesi che non ti senti, mi hai fatto la blu. Mario, chissà cosa è successo, mi avete fatto dire stato poco bello, speriamo che non sia niente di grave, che si diventa tutto in ordine. Meno male, ti ho risentito, per cui già va bene, piano piano. Avanti, Franche. Capo. Sono arrivato io alle 9:30. 9:30, se no è il tuo normale. Infatti io non lo so come faccio ad arrivare alle 9:20, non per dubitare di Mario, perché già lo conosco, che non è di Mauri. Però mi sembra impossibile, perché io sono arrivato alle 9:10 con la tenna manca, ma siamo più o meno nelle stesse distanze rispetto a Mario. E Mario gli stava anche qualcosina di più di quello che mi stanno, tu infatti ho detto boh. Mi sembra bastava per quello, che io sono 9:10 e tu sei arrivato 9:20. Guarda questo passaggio, Mario, se mi sono abbassato, ho alzato. Il passaggio che mi sono spostato a tirare il fumo. Cappa, guarda questo passaggio, se va bene o sempre lo stesso. Hai aumentato un pelino qui per me, sei a Santiago 9 ora. Ah, è cappa, Roger, ora. E adesso ho aumentato ancora? No, sempre lo stesso, sì. Ciao Roger, va bene, vai. Mario, c'è qualche attenuatore inserito tu, Mario? No, perché non ce l'ha l'attenuatore questo qui. Poi adesso perché è non completamente aperto. No. Beh, è tutto a posto. No, non c'è nulla. L'attenuatore ce l'ho solo nel ghiaccio, dove è nel coso. E nelle fettine. E io? La radio pulita è Mario. Sì. Ciao Roger. Ripeti, tu vedi. Non va per comprare. E questo? Solo lo sai, voi là. sentito, avanti Mario. Ciao Pierpaolo, buonasera, ben entrato. Buonasera, ve la uno. Sera, ve la uno. Prova, ma... Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9, 25. Ma prima che arrivavamo proprio forte, o sbaglio già? E quello che sto dicendo, per me sarà con me, lui è 9,10 da me, ma prima ne avevamo 9,20 pieno, 9,25, anche di più quando poi sollevavo. Anche con l'Arguso arrivava sempre forte, non dico segnali di Lucca, però a livello di Gianni arrivava, più o meno come Gianni. Allora Mario, l'Arguso io me lo ricordo che con quel microfono sei il diavolo rosso, quello lì, usciva una bomba, almeno che tu l'abbia abbassato adesso, non le ricordo che la tua voce è una bomba con quel microfono, e si è scaricata la batteria. Boh, non lo so, era un bel tempo fermo. Ti sto dicendo che ho dovuto togliere tutto quanto, ho messo questo mobile e sto piantando un po' la bella meglio, perché purtroppo devo andare in corrente, sennò si asciugano i condensatori e poi non vanno più. E allora sto cercando di sistemare, siccome ho fatto il piano di in alto dove ci ho messo tutti i baracchini veicolari, che ce ne sono, 1, 2, 3, 3, 6, 8 ce ne sono. Poi ci sono tutti i portatili, quindi i piccolini, e c'è un casino nero, e poi devo arrivare dove c'è il chiuso. Quando attacco il chiuso allora è diverso. Ok, Roberto, senza KP2, siccome voleva sentire come si va l'Argus, glielo dici che questo qui sta usando Mario, perché lui ce l'ha l'Argus, lo deve aggiustare, e non lo sa manco come esce, capito? Quindi voleva sentirlo, se in caso entra glielo dici, guarda, questo qui è l'Argus, questo che sta modulando Mario. Sì, ho già detto a Mario, infatti che Capri voleva delle informazioni. No, ma a me l'Argus mi è sempre piaciuto come modulazione. Il segnale, sto parlando Gianni, rispetto a come lo sentivo prima, di segnale, vabbè lui ce ne sono scesi due radiali, ma mi pare che due radiali ti fanno perdere 10 punti almeno di coso, mi sembra troppo strano. Perché, per dire, come si chiama? E pensavo che in una zona più limitata di lui, meno aperta, non ha lavato, ma arrivava molto più forte. Appagato, ma l'Argus va bene. Ho visto una volta, adesso non me lo ricordo, su internet, adesso non me lo ricordo come è fatto. Ma lei dove si fa l'Argus? Scusa, Mario, volevo dire. Io volevo dire a te, ho detto, lei è l'Argus, come è fatto? Dite quello lei. Allora, l'Argus c'ha il frontalino nero, non c'ha frequenzimetro, c'ha il rovetro, poi ci sono i canali, e poi c'ha le maniglie in alluminio, là, bianco argento. Ma non è FM però quel baracchino? Sì, tutto già questo qui mi sembra di 270 canali. Ah, quindi c'è la FM e banda laterale pure. Cappa. Ma io l'ho visto una volta, però non mi ricordo come è fatto, infatti se capo se me lo guardo su internet. Mi ricordo che era benino, un bel apparato, era una stazione base a 220, così è. Cappa. Più o meno la sarà tipo simile alla faccia che c'ho io. Vediamo che c'era in parcheggio. Stefano, avanti Stefano. Niente, avanti Falchetto. Ehi, Guarda, tutti mi sono fatti girare Mario, sono guai, sono, lascio in piedi, sono guai, Gianni, veglia, tu c'hai il Guarda Saturnetto, la 6S, modello Terza 805B, lo fa la 2 a 120 e 200 canali, in AM, FM, USB, USB, CW, il più completo per tutte le necessità del CD più esigente, ti dico il prezzo, aspetta un attimo la reso, costava nel 1985 670 euro. Questo che cos'è? Il Terza? Il Terza 805B. Tu quello con la copernante a destra c'hai? Sì, ma l'ho già dato, avanti. No, la copernante è stato un letto. Il quello con la copernante a destra. Non c'è più per te. Che cosa? È stato un letto. Sì, no, è questo che sto modulando. Il Terza 805. Sono uguali comunque come apparati, cioè il cambio canale è esattamente al centro dell'apparato, così. Tu fai degli interruttori in sotto, sopra a sinistra, e poi cosa cavolo c'ha? E la tagliare le cuffie a sinistra, in basso a sinistra. O non forse quello interruttore in accensione, c'ha due cose, un affare che forse. Ah, quello il microfono a sinistra, la cuffia c'è a destra. Guarda la parte di dietro. Sto andando, là, ciao. Ciao Gianni, va bene, fate. Ciao già, alle prossime. Ci sono tutti i baracchini, tutti i Kenwood, i Aesu, qualche, comunque come ce ne sono pure, ci sono tutte le antenne. Quanto portavano i baracchini prima era una cosa lucida. Prima c'era la linea ed era diverso. Adesso è diverso ancora perché purtroppo i tempi sono cambiati e tutto costa il doppio. C'è questa antenna, questa è appesa da Amato, vai. Si chiama Gold Star, 86 kW, da 26 a 30 MHz, 4 radiali e se vuole, vabbè, pensavo, costava 95.000 lire questa antenna qua. Mentre la Mantova 1, nel 1985, costava 90.000 lire, mi pare detto, te lo dico subito, però l'ho letto poco fa. Allora, Mantova 1, cavolo, aspetta un secondino. Allora, Mantova 1 portava 94, vabbè come quella, 94 con 760, il 430 della Kenwood costava 2.888.000 lire, in PS 930 5.757, cioè cose allucinanti. L'MC60 costava 6 euro meno dell'MC85, cioè meno meno, di più. La fagata, io ci sono le truppe, manco, comunque ci volevo dire. L'altro le sentì 787. Sì, si chiama bella parte. E poi non sapevo, me l'ha confermato Gianni, che l'Expander 500, il microfono, l'ho fatto dalla Tannen e costava nel 1985 179.000 lire. Più dell'MC60 portava. No, cazzo, non più dell'MC60 portava 250 euro, no, sto dicendo fesserie. Più del canale più 3 costava, il canale più 3 costava 116, mentre le spalle 500 179. Sì, ma oggi ci scappa da ridere quando tu entri in un negozio, ti guardi quei prezzi e guardi i prezzi che ci sono oggi. La Mantova 5 quando l'ho comprata io 17 anni fa, mi sembra che l'ho pagata un centinaio di mila lire. No, ma mi sto vedendo quanto costavano gli apparati HF, cioè un microfono, due, cioè, allora, esattamente, nel MC60 ne facevano due, il MC60 a 4 cavi, a 4 pin, 250 euro, e nel MC60, quello che c'ho io, a 8 pin, 283.000 lire, e nel MC85 270, se facevano 85 costasse di più. No, perché il MC60 era quello che era più riuscito, andava di più. Anche se è superiore all'MC85 come microfono perché c'è il compressore interno eccetera eccetera, forse perché c'era poca richiesta, magari li facevano furri per quello, magari l'MC60 c'era più richiesta, mettevano in prima. Ecco, ci sono delle valvole qua di amplificatori all'epoca 3 milioni e ce n'è una, non 3 milioni, 3.000 dollari, per cui 3.300 dollari dell'85 saranno stati almeno 5 milioni di, dell'epoca in lira. È KK, purtroppo è un casino. Comunque, vabbè, ti dovevo chiedere un favore io a te. Perché nessuno prova, nessuno fa e nessuno sa niente. Siccome io ho la 75 che la volevo rimettere in moto, poi dovevo cambiare il cannella perché molto vince, molto tempo ferma. E niente, non si trovano più le candele. E eventualmente, se senti qualche meccanico, ma di quelli che fanno i meccanici, non di quelli CP2, che va lì e dice, ti dicono, non le fanno più quelle candele, come tanti meccanici, non le tolgono piede. Siccome non costruiscono più quel tipo di candele, devi chiedere se le candele della 164 Tristark, stiamo parlando sempre di 2000, della 155, se vanno bene al motore della 75. Allora, chi è che lo fa? Allora, io l'altro giorno, vabbè, non proprio qualche giorno, un mese e mezzo fa, il duetto Alfa Romeo Spider del 1961, che poi la monta le candele Bosch, no, se ho Bosch o Marileva non me la metto, le abbiamo fatte arrivare apposta, le hanno fatte pagare 16 euro l'una, quelle doppia punta sono, in realtà anche materiale, va, non me la metto nemmeno, come materiale, le hanno fatte pagare un bel trovi tutto quello che vuoi. Lo sai che ti può dare queste informazioni? Lo conosci a Franco Russetto, che adesso si è trasferito in Viale Porto Torre. Sì, ma lui ha detto che tempo non ne ha provato due volte, mi ha detto che non andavano bene, o gli scoppiettavano o c'era qualcosa che non andava, perché io 7 mi sono rimaste, ma mi manca l'ottava e ancora non gli ho manco piazzate perché sto aspettando l'ottava, di trovare l'ottava e niente. Dimmi il codice, mi interesso io, dai, chiedo un po'. Il codice della sono le Bosch monta originali qua. No, la cosa montava le Lodge giù, le 25 HLD. Lodge 25 HLD, sei sicuro al 100%? Chi te l'ha detto questa? Chi me l'ha detto, che stai evitando di venire giù, la macchina non so come cambia di monta. Sono gli originali, è nata con le 25 HLD. Aspetta che me lo spiego, ma ripetimi il codice. 25 HLD. Chi lo conosco? Cappa. Codice. Figliano. Domani non ti garantisco niente, provo a chiedere, vediamo un po'. Io le ho trovate quelle che ti ho detto, doppia accensione, che c'hanno doppia come si chiama? Doppio elettrodo, non so se le conosci, che c'hanno il coso in un materiale, ma non mi viene la baraula, in palladio, elettrodo in palladio. Gliela abbiamo trovata per questa Alfa Romeo, non so se lo conosci, quello Spider, con la di seppia la chiama, non so di seppia dietro che è tagliato, del 61, erano qua nel Massafave Danni, le abbiamo trovate, mi sembra le ha fatte pagare 16 euro l'una. Ma quelle lì c'hanno un elettrodo e c'hanno praticamente due cose di massa, la mia invece ne ha quattro con punte. Sì, capa, okay. Ma dimmi una cosa, ci sono anche le equivalenti, perché le stesse candele della Rossi le facevano come primo impianto, potevano montare anche le Champion, si può chiedere anche come Champion. Io adesso mi verifico questo codice qua, siccome c'ho le comparazioni, le vediamo un pochettino, e poi se lo chiedo a questo amico che lui sa come reperirle, se le vogliamo trovare. Sì, capo, no, perché le dovrete mettere lì a posto, e poi... Ho due problemi che ne devo parlare con te, siccome per metterla in moto perché era intestata la mia moglie, diciamo così, e lei adesso non c'è più e la macchina dovrebbe essere passata intestata a mio figlio e iscriverla all'albo delle macchine vecchie, diciamo così. Però io ho due pezzi che sono completamente marci. Il cofano dove c'era l'immatricolazione, perché non si ci pensava prima, quando si andava si pigliava che lì ci si mettevano nel cofano. E il coso del sale si è mangiato tutto il cofano praticamente. E il pezzo dove c'è vicino alla ruota di scorta ci sta scendendo a chi ve la salva. E poi niente, l'acqua, perché l'altro giorno io l'ho aperta per vedere un po' com'era e a vedere se partiva. E ho visto che c'era molta acqua sul tappeto, ci deve essere il fascione di sotto, quando scende dal parabrezza, hai visto sotto dove praticamente ci attacchi il motorino del cristallo, lì deve essere che è sfondato o mangiato dalla ruggine e entra l'acqua dentro. A vedere cosa costa per rimettere a posto quelle due cose lì e se si trova lo stampato della lamiera del cofano di dietro. Ma il cofano già si trova, io le ho viste qualcuno la nostra carrozza. Stai parlando del cofano di dietro o stai parlando del vano della ruota di scorta, Maccio? Del vano della ruota di scorta, dentro. Beh, mi vedono tutti di un cofano, cosa te ne frega? No, ho detto all'interno del cofano, il pezzo del pianale, hai visto che c'è un pianale grande sotto, dove metti anche qui un altro pezzo, quello della ruota. Sono due pizzi, che uno va incassato con l'altro. Cioè, prima devi mettere praticamente il piano e poi ci devi reinserire il coso della ruota, deve essere saldato, no? Io ho tutto quanto quel pezzettino lì, sia dove metti la ruota che sia dove metti il pianale, e sono andati, vorrebbero messi muovi. Ho capito, ma dimmi una cosa, hanno detto che tu ce l'hai dietro, all'interno del baule, avevano baule, non è così, non ce l'hai mica sotto la macchina. No, ce l'ho all'interno, risulta sotto la macchina, però non devi aprire sempre il cofano per metterla dentro, perché c'è un foro dove si è messo il coso in maniera e ci va il coso della ruota. No, no, già sto dicendo bene, no, pensavo che stessi confondendo il titolo, io già la conosco bene. Ma c'è un incasso, diciamo, una specie di alloggio, quello che capisco, che sta andato dentro la carrozzeria e ti risulta più in basso del piano d'appoggio, che poi come ti danno la carrozzeria ci metti il tappeto e rimane tutto a fare. Cappa di positivo. Cosa si può fare tutto, bisogna verificarla, vedere, magari un giorno ci mettiamo d'accordo, un sabato mattina gli diamo uno sguardo e ti faccio ovviamente. Quella lì c'ha le guarnizioni, il proprio tappetone è con guarnizioni, non è neanche collato mi sembra, no? Cosa? Il parabrezza, perché tu il problema delle titrazioni ce l'hai dal parabrezza, dal paramaccio sotto, ma ci vanno sempre sotto quelli lì, sotto il parabrezza. Ma non è nel parabrezza che è il marcio. All'interno, sotto il parabrezza, hai visto quando scende l'acqua, dove entra l'acqua, c'è la griglietta in plastica, escono i cristalli, lì sotto è marcio. Nella griglietta, diciamo, dove passa, dove c'è lo scarico dell'acqua. Cappa di positivo. Bisogna vedere, allora, inoltre a parlare, controllare. Però c'è da dire una cosa, perché qualche cosa te la posso dare anche a te, perché in quelle grigliette di lì l'acqua deve entrare dentro. Se si tagliano gli scarichi, anziché uscire fuori l'acqua, si riempie quel contenitore, diciamo, dove c'è la griglietta, quella specie di vano lì, se c'è un passaggio di fili, ti ne è caduta dentro. Soprattutto succede quando la macchina rimane all'aria aperta, che non è protetta bene tutta la polvere, eccetera, eccetera, il fogliame, il terriccio. Ti blocca gli scarichi e l'acqua ti uscire fuori dallo scarico davanti verso il motore te la butta all'interno dell'abitacolo. La stessa cosa se c'hai montato l'autoradio, che tutti fanno veloci a passare i fili, te la mettete nell'autoradio, allargano i gommini e da lì entra Eva, per cui bisogna controllare tutte queste cose. Cappa, un giorno che c'è il tempo, casomai passo qui, perché la macchina è sempre qui sotto, però non è né bollata né assicurata, capito? E non è che la posso spostare così come voglio. Al limite una sera o una domenica mattina mi fai una passeggiata, scendi, la vedi e poi mi dici cosa costa e cosa non costa fare il lavoro. Aspetta Maria, io non so cosa facciamo, io ho il numero di telefono vecchio, ti dico un paio di numeri tuoi, te lo ricordi a memoria tu il vecchio numero di telefono? Sì. Aspetta, così non me lo dai direttamente, io ti dico, allora il secondo numero aggiungi io tu di tre, mi dice aspetta un attimino, me lo prendo, poi così me lo scrivo e ci sentiamo per telefono. Adio. Ehi. Faccio quello che inizia con 348 e finisce con 083 il numero. Quello lì non ce l'ho più, io l'ho perso e non ce l'ho più. Adesso ne ho un altro, ma non ti preoccupare, io al limite domani mattina, intanto domani si lavora tutti quanti. Come trovo 5 minuti, passo e ti do il mio, va. Adesso per dire il primo numero deve aggiungere al primo numero, per dire c'era 5 il primo numero, mi dici aggiungi 2 o togli 2, ma non lo dico che abbiamo adesso, voglio non sapere com'è il prefisso tuo di adesso. E non lo so perché ce l'ho da poco, non lo so a memoria, devo venire io a farti squillare il tuo che a fare, perché me l'ha dato da poco, siccome questo qui è sempre il telefono aziendale, e così che niente, siccome me l'ha dato da poco e adesso non so che numero ci sia, e a memoria non me lo ricordo. Non c'è problema, ne farò squillo fuori, lo memorizzo, non c'è problema. Aspetta, stiamo monopolizzando avanti, Franchetto. Vabbè, va, io lascio qua per te, là, che devo andare a fare delle commissioni. Ciao Mario, ciao Roberto, là, ce la ascoltiamo tutte le prossime. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Io ce l'ho qualche, buonanotte a te, buona giornata per domani. Avanti domani. Ciao, ma che tutte le prossime, ce la risentiamo. Magari con l'altro apparato così ti arrivo più a bomba. Ciao, gara. Ciao, buonanotte a tutti. Chi è rimasto qua? Chi c'è sul 5 avanti? Ciao, Jorge, ciao, buonanotte, ce la riascoltiamo le prossime. Scusa, Stefano, scusa, per non ho dimenticato di te. Ma Stefano si è assentato, no? Poco fa l'ho chiamato io e non mi ha risposto. Ma c'è Stefano, lo saranno dimenticato di lui? Ma ci dovrebbe essere anche Bombola. C'è qualcuno, salve anche a tu. Sto facendo una commissione, sto arrivando subito. Io, tu cosa c'è nel K? 14 o 44? 14 K, con 60 K. Io, va bene, dai. Ogni tanto farò camminare perché sennò anche quelli si rovinano. Lo so, ma ti sto dicendo che sto cercando di mettere a posto. Se vedi come sono messo, sembra un rosicchio allora. Vabbè, mettiti a posto, perché quella parte non mi dà scherzarci, sennò puoi tenere avanti. Lo so, ma ci devo arrivare piano piano. Siccome ti ho detto che ce n'è, prima ne avevo uno o due, adesso c'ho un mobile da 2 litri pieno. Ehi, vabbè, piano piano, è meglio avere più che meno, ma così. È stata una base dove sei rimasto, Mario? Come è stata una base? Alimentate, parliamo meglio, c'è l'Argus e quelli che sono alimentati a 2 litri, cosa c'è di fattore grande? Poi c'ho ripeti il Sommerca 7B, poi c'ho il 787 e poi c'ho il coso là, il Kingwood. Poi di quelli portatili c'ho l'Akai, c'ho il multimode, poi c'è Asaki, poi ci sono tre Intec, un Mobicon, uno è il 606X, poi ce n'è un altro piccolino, poi ce n'è un altro ancora, che quello lì è il primo che ho avuto, e così via. Poi c'ho il telefono di barca, il radiotelefono di barca, e fino a un mese. Troppo pesante, c'avevo tutta la schiuma poliletanica all'interno che era tutta zuppata d'acqua e l'ho smantellata quest'anno e la sto rifacendo a nuovo, me l'ho tolto tutto quanto, adesso devo pigliare la resina e rifarla tutta quanta, quella liquida però perché la suia l'ho già comprata, questa è una vacca di dinà. E dopodiché, una volta che finisco tutto il fondo, gli rimetto le tavole e gli faccio il piano calpestabile in tavole e poi si vedrà. Poi dovrò fargli anche la gabina, una gabinetta di quelle piccoline. Allora ti devi fare bene. Ma cos'è il gommone grande? Questo è anche il gommone, ma è bucato e non lo sto usando. Ah, manca proprio resina. Scappa. Quanto metri è? 5 litri. Sì, va bene. Sì, già va bene, ma io, siccome ero un po' messo male e sono arrivato su dove potevo arrivare, poi bisogna continuare. E tu come invece non c'hai? Io ho una pilottina di 6 metri. Una pilottina di 6 metri, mi volete? E vabbè, piccolina, se ne vede le bacche, ce ne sono molto, molto più grandi. Come te l'hai, secco? No, a poco, a te, non mi sono andato per l'altra sera, avevo male, mamma mia. Italia, stessa busta, ti portava, ne sono usciti due, guarda il mare burrasca, ne sono usciti due tipi con un canotto di 3,5 metri, io non so cos'erano in vendita, tutti con la muta, tutti completamente coperti, pescati subacqua, ho visto cos'erano in vendita, buh, a luce, c'era un freddo, la cagarsi sotto, verso le 5, che proprio stava mettendo la tramonta, c'era il mare, un vento, proprio loro con il giubbotto, con il cappello tutto coperto, adesso arrivi di chifi da Romagna, chi sa in difesa. Male. Non si vede niente, io dico la gente o è scema perché erano super attrezzati questi, ma c'era un freddo, poi come sono usciti sono entrati direttamente in macchina a ciambassi perché non fa neanche a spogliati, talmente il vento freddo gelido che c'era, proprio nel salone, il mare era burrasca, tutto bianco, perché non vedi niente, perché se ti immergi tu con tutto il movimento della sabbia eccetera eccetera non vedi a mezzo metro di... non ho capito cosa stavano facendo questi, c'erano dietro una schiena, poi c'erano degli stabilizzatori attaccati di buca. O stavano facendo l'aspetto in superficie, boh. Sono c'erano cose di addestramento. Certo che riuscire a colmare così. Vabbè, con la muta non se ne ha freddo, eh. E non è, anche io sono uscito, non dico pura neve, quasi, però non c'era vento, oggi c'era un bel vento. La cosa brutta quando sei zuppato, te lo sai come ti entra in faccia, anche se sei tutto coperto, il freddo cazzo ti entra in faccia, ti fulmineggi. E poi la cosa strana, si sono fermati a fianco alla capitaneria, sono scesi di lì, hanno legato il gommone e sono stati sopra con la macchina. Infatti ho detto, se non so che sono montato nella capitaneria di quelli nuclei speciali, perché era un gommone piccolino, un 350 gommonautica, con un 15 cavalli o 25 cavalli, un motorino piccolo ci aveva. Infatti ho detto, ma vai da chi fai macchi. Ma capitaneria non penso che ne abbia comune così, non c'hanno il loro, sono il loro mezzo, non credo che escano comune cose così. No, assolutamente, infatti erano tutti dentro i mitri, anche quello gommone ogni tempo di salvataggio erano tutti dentro. Non veniva nessuno il mare, cioè si sta dicendo il mare era in burrasca, c'erano due petrolieri ancorate al largo, alla fonda e buh, tutto il resto era, tutte le barche, non c'era la marca fuori, solo questi due c'erano. Sicuramente non esci con un uomo della genere, si va a recuperare roba, perché è molto rischioso, col mare così grosso, devi stare avanti, se no c'è una muta, cioè non affondi, nel senso già ti tiene a galla con la muta, anche se si viaggia a muglio, però non ho mai visto, io sono uscito col mare brutto, quasi come luci, però solo per fare una prova a vedere, cioè io a vedere come si comporta il gommone, ma non mai uscito a andare a piccare, perché questi sicuramente stanno a pescare. Quello che usciva anche col maestrale non è quasi nulla, però uscire con un gommone ogni tempo quel gommone, chiamiamolo gommone, che però non è neanche un gommone, quello idrogetto della, della capitaneria che hanno il coso, il roll bar dentro, cioè c'hanno i sedili tipo le macchine della cosa, che ti siedi dentro, tu legato con le cinture di sicurezza, quelli escono, si chiamano ogni tempo quei mitri, escono con il mare anche in burrasca, forza 8, io li ho visti camminando con il mare forza 7, camminando a 30 gradi sopra le onde, volando, una cosa allucinante. E io li ho visto le prove, mi hanno fatto vedere quando era uscito a una fiera nautica, c'era la prova dimostrativa di quel gommone col mare forza 10, lo facevano proprio capottare alla posta per vedere come reagiva, e poi si raddrizzava, era allucinante, lo vedevo la roba. Beh, quelle sono imbarcazioni un po' speciali, ma comunque un gommone lo tipo, con un oro ma lo tipo. Il gommone deve essere fissato bene, dai, tenuto bene, perché secondo il colpo che prendi ti fece paradura. Rispetto a una barca magari è più pesante, l'onda la rimbalza meno. Il gommone, secondo il colpo di vento che prendi, ti si impenna e ti si capovolge. Da questo punto di vista bisogna avere anche un po' di manico guidando, bisogna avere esperienza, troppa niente di visto quando nei mari, fidandosi e poi con il rischio di farsi male. Aspetta, facciamo riprendere a Mario, avanti Mario, riprendi. Mario è fuggito, vediamo se è rimasto qualcuno sul canale 5, avanti chi vuole entrare. Ma non sono scappato, stavo provando ad attaccare cosa che vedo da volante così. Infatti è bella le cose, ma attenzione che faccia nulla dai contratti stazionari, perché c'è strano come livello di segnale, o c'è qualche stazionaria un po' altina, controlla tra le belle, c'hai il rosmato. Stavo innescando perché l'ho acceso, l'ho messo in tensione adesso a scaldare, però siccome non c'ho più l'alimentatore suo, quello che avevo prima io, volevo un altro, però mi sa che non ce la fa come voltaggio. E stai attento, la tensione è la corretta, l'amperaggio, che non è troppa tensione perché se superi 15 volte lo sciogli l'apparato. E poi l'amperaggio, anche se non ti basta l'amperaggio, è lo stesso problema perché ci sono dei componenti che ne risentono. Quando gli chiede 15 amperi tu generai 10, lui inizia a entrare in protezione, ti lampeggia tutto, fai del danno, lascia perdere, non fare esperimenti. Avanti per qua. E pare che ci vogliono, quante ce ne vogliono per alimentare i colori, non me lo ricordo più. Almeno 20 ampere continue, non bastano neanche, se ne hai 25 anche meglio. Loro lo dicono per 20 ampere, però quando ci sono i picchi di a piena potenza, di modulazione, 20 ampere sono proprio al limite, lo struzzi il coso, l'alimentatore, vedi, per essere sicuro almeno 25 ampere continue. Guarda com'è, c'è 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cacchio, lì si usa il tuo Mario, infatti non so cosa stavi facendo con l'Agus, lo stavi uscendo col mezzo watt, perché è troppo basso Mario, non sei preso se 9.30. Ma questo perché voglio, me l'appunto, quello là esce con 5 watt. No, non è di 5 watt Mario, è impossibile, no, te lo dico io. Allora tu vai essere più basso di cosa? Di Pierpaolo, Pierpaolo c'ha un'antenna piccola, tu devi uscire almeno 9.25, più di Gianni doppio rumo deve arrivare, almeno arrivavi così tu anche con gli altri apparati. Non dico come Luca, un po' più basso di Luca dovevi arrivare. Comunque adesso questo qui era un bel po' di tempo fermo. Niente, adesso mi l'ho attaccato così volante perché te l'ho detto, c'ho la casa che sembra uno zingaro, tutto in mezzo alle balle, sto cercando di fare una specie di vetrina che però devono accendere per rimanere in tensione, almeno in tensione. E quanti ne saranno adesso Mario? 25. Così deve essere il segnale, non salire troppo va benissimo. E però sicuramente li scioglie il baracchino, perché quando ti arriva Mario? Vai che sei quel segnale. Sette fa. E mi arriva 9.10. 9.10? Così basso. Ecco, fatta. Quando ti arrivo? Vai. Ora. Santiago 9. Non è così basso i segnali, io pensavo ti arrivasse minimo 9.40 lui. Mi arriva 9.30 a me, io ho detto, visto che arriverà minimo 9.40. Tutto chiuso per patto. No, non ho chiuso niente, no, io tutto normale. pensavo arrivasse molto, ma molto più forte. Blu, blu. Fatta apposta qua, ma tu sei a te qualche cosa di attenuatore? No, non ce l'ho attenuatore, no. E cosa ti posso dire? Ho fatto un po' tra in antenna per non... tu sai che io ho due vicini di casa, che sarà Giomai e Maio, e quindi ho fatto un qualcosa sull'antenna, dove attenuare, ma non solo attenuare il baracchino e dall'antenna, in maniera che non mi sbatta il segnale, perché se altrimenti il segnale si sbatta da una parte all'altra, capito? Ho detto che è strano che è arrivato il Mario così in basso, io lo stesso no, ho detto buh. Sentivo buono Carlo, è fatto parecchio, i segnali più piccoli, però ci sono i filtri in antenna che ricevo basso, capito? Cioè ricevo basso, mi toglie sicuramente dei punti dove attaccare l'altro baracchino, l'altro sotterro come la pezza. Ah, va bene, ok, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno su canale 5, attenzione canale 5, chi vuole entrare qua, buonasera. Poi non ti compreso anche se mi conviene di già da qualche giorno nel canale 5, che la domani bisogna ascoltarsi. La domani entro nel cambio insieme, la domani bisogna ascoltarsi sul 21. E allora lo sono per la vabbè, diciamo di notte non ci sono quasi mai. Ma puoi fare compagnia a qualcuno che sta andando verso Olbia, a Bledonelli, tipo chi era. Fa una persona che viene anche Trasanetto, come si chiama? Domenico Trasanetto, qualche volta è capitato di notte, ma normalmente è vuoto il 5, ma se lo utilizzate nell'orario di lavoro rompiamo la scatola. Esatto, no, ma non lo so neanche io perché c'è un paio di giorni sul canale 5 sempre, ma... Se sono anche male, rimane anche di tu, attenzione al canale 5, ma ne posso, avanti Italia 1. E ti ho sentito, stavo per rispondere io, ma ho sentito la risposta. Sì, va bene, dai. Avanti Mario. E insomma, io sono il più piccolino di tutti, là. Guardate di Mario, ti dia sempre, non è San Badone, io sono sempre il più piccolino. E che andate a vedere il fascio Valomo? No. Ehi, che non c'è più a Giugetto. Se attaccavo il Giugetto, guai. Non so che c'hai a Giugetto, che tu sei vuoi, puoi fare male proprio. Quanto si era spaventato anche Claudio, ti ricordi quella volta che stavamo facendo le prove? E mi ha detto, bruva, e si è associato a chi l'ha fatto fare un giro tondo allo Smitter. Te lo so, dimmi ancora, per curiosità, dove l'avete preso quel giocato? Io ce l'ho, quel giocattolo lì ce l'ho da quando ho comprato questo coso, questo Argus, l'ho comprato insieme. Ma quanta l'hai preso? Diciamo che è uno di Sassari, però lui in quel periodo abitava a Castelsardo. Era una bella bestia. Io non l'ho visto, ma me l'hanno descritto, anzi era un bel giocato. E poi è bello che è trasessorizzato, non è di quelli a valvole. E quello è bello, tu è autoalimentato, non devi mettere né alimentatore né niente. Cappa. Era una bomba comunque. Un chilo abbastanza. Lo so, una volta l'ha attaccato l'amico nostro, già te lo ricordo, mi pare che ci a fare una prova, ha fatto un colpo importante, è rimasto sui baracchini della zona. Cappa. No, io qui una volta per gioco, allora era vivo, adesso mi sa che è morto, non l'ho più sentito. Gli avevo fatto spegnere... Ti avevo fatto spegnere tutto, me, perché c'era Stefano qui a casa e l'ha fatto fuggire, l'ha posto la portata e l'ha fatto fuggire un baracchino. E poi quando parli di quelle potenze lì, dentro città fai danno, diciamo, è assurdo, nel senso che con il rendimento della manto, va più di tanto, ci vuole anche il cavo, no? O puoi fare con un LG58, ci vuole il cavo grosso per far funzionare, deve essere tutto perfetto, non deve avere né stazionario né niente, perché se ti tiri fuori un kilowatt e c'hai il stazionario per dire a due, te ne rientrano, per dire, 50 volte dentro il baracchino e sciogli tutto. No, quello lì che non succedeva, qui era tutta posta, adesso è che sono incasinato perché devo fare tante cosette e purtroppo ci vuole un bel di tempo per mettere tutto bene in ordine e poi quando è tutto finito gli devo costruire due sportelli in vetro, così sembra una vetrina. Cappa, avanti per qua. Yeah, no. ventina qui davanti agli uomini. Appena appena troppo, ma tranquillo. Sì, ho allucinato, non vedi che ho allucinato. Le pure da terra,